Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. E prima dicono brutto tempo, poi dicono brutto tempo, poi dopo c'è il sole, poi c'è brutto tempo, poi c'è brutto tempo. Non so da voi, cari ascoltatori, questo è Dai e Vai, Radio 24, qui c'è bel tempo, non so da voi, ma comunque vedo che già a Udine c'è bel tempo. Bel tempo, sole, diciamo, a Udine, sole. Sole a Udine, invece a Siena un po' così, ecco, c'è gente che bestemmia. No, un po'. Chi l'ha detto? Si vedeva dal labiale, si vedeva il giocatore del Parma che stava un pochettino tirando giù. Sì, adesso qualcosa. Non è proprio la notizia che, cioè, stavamo parlando del tempo, del meteo. Sì, allora, no, nuvoloso, Siena nuvoloso coperto, insomma, non piove però coperto. Però insomma stanno giocando tutte le squadre, quelle tutte. Che devono giocare oggi, quelle 8 squadrette che ci sono, cioè. Sì, quelle che sono rimaste, esatto. Insomma, Catania-Cagliari 0-0, Sampdoria-Palermo, vince il Palermo 3-1 sulla Sampdoria, Siena-Parma 0-0 dove è nuvoloso, Udinese-Chievo invece dove c'è il sole, vince l'Udinese 2-1 grazie a una fantastica doppietta di Natale. Vabbè. Sai com'era la doppietta di Natale? Sì. Fantastica proprio. Sì. No, la cosa che lascia un po' perplesso è che è iniziata, come dire, la fase 3, 2, non lo so bene, insomma, quella che fa la fase. La fase in cui i gol sono un po' strani. No, dai, non mettere subito malignità. Ma dai. No, tu hai detto strani, pensi chissà che cosa, sì, no. Sono un po' strani, nel senso che è imbarazzante le papere che ci sono in questo periodo. Saranno i primi caldi? No, sì. Perché per esempio a Genova c'è il sole. Sì, a Genova c'è il sole, gente che suda. Quindi non hanno fatto l'allarme, non ci sono allarmi in questo caso, no? Però a Catania invece c'è il sole anche a Catania. Dov'è che hanno fatto quei due golletti un po' così imbarazzanti? Uno quello di Udine, dove Puggioni ha sbagliato completamente lo stop e il tentativo di dribbling su Di Natale, ha mancato completamente la palla. È arrivato Di Natale sull'1-0, ha fatto plim, proprio l'ha toccata, l'ha messa dentro. Sì, poi vabbè, anche Romero un po'. Sì, no, però la cosa imbarazzante è stata veramente il portiere che ha tentato di fare il dribbling, cioè, proprio bucato. Sì, no, proprio non ha preso il pallone. Sai, prendo di tacchetto, la tiro un po' indietro, esatto, tu arrivi, niente. Fium, la palla non c'era più. Ha fatto il movimento col piede e la palla è rimasta lì. Di Natale ha detto grazie. Si è avventurato, come dire, in uno sport che non era il suo, insomma, tra virgolette. E poi invece cosa è successo? L'altro gol? Invece a Genova, Romero, non particolarmente brillante sul gol dell'1-0 di Von Bergen. Anche lui si è avventurato verso... Ecco, spiega bene questo non particolarmente brillante, perché vuol dire tante cose in questo caso. Sì, è inciampato. Patto su Von Bergen, ecco. Mentre Von Bergen tentava di colpire la palla, lui è inciampato, è finito per terra e la palla ha fatto una strana curva e è finita in gol. Vabbè, chiamalo così, cioè, voglio dire, non particolarmente brillante. Non particolarmente brillante. No, mi fa molto piacere questa tua definizione. Perché ho conosciuto gli avvocati di Romero e sono delle persone molto permalose. Simpatiche. Gli avvocati di Romero, però. Romero simpaticissimo. No, voglio dire, simpatiche, però... tanto questa, cioè io capisco che sei andata alla maratona, cioè di Milano, no? Sono andato a vedere, no, perché magari qualcuno interpreta questo proprio perché sei andato a vedere. Potresti toglierti l'asciugamano, che dà un po' fastidio. No, ma si suda, si suda, no, perché fa caldo per non la maratona, essere ridicolo, cioè voglio dire, dai, adesso sei andato lì a fare un giro, c'è stata la maratona che tra l'altro tutti si aspettavano una maratona sotto la pioggia qua a Milano e invece no invece temperatura fresca, dignitosa. Sì, temperatura fresca e cielo nuvoloso, poi pian piano è uscito un pallido sole, però sì, l'ideale per correre una maratona. Guarda, infatti gli atleti erano contentissimi. Guarda, erano tutti gasatissimi. Tutti contenti. Guarda. Tutti contenti, ma soprattutto anche tu, no, che non l'hai fatta, perché l'anno scorso l'hai fatta e ti sei schiantato per delle settimane. Aspetta, poi dopo. L'anno scorso ho fatto un quarto. Non è che hai fatto la maratona, sei andato lì e quella volta lì hai fatto delle cose, insomma, hai corso. Ho corso, quella volta avevo la tutina. Com'era il clima di questa maratona? Com'era il clima di questa maratona? Com'è andata? Bene, meglio del previsto. Ah, ma tu corri normalmente? Sì, non fortissimo, però corro. Ogni quante volte alla settimana corri? Due, quando riesco tre. Comunque sono contenta perché pensavo di farla in un'ora e 20, l'ho fatta in un'ora e 12, quindi... Ah, erano complessivamente quanti? 13 e qualcosa. Ah, quindi un buon tempo tutto sommato. Non buono, per quelli che corrono veramente non è buono, però certo, per me lo è. Sì, ma infatti tu non corri, quindi non potevi saperlo. E questo sembra... è il concetto di base. Mi sembrava contenta la ragazza del risultato. E tu non volevi deludere. Esatto. Cioè, in questo caso... Teniamo conto che questo è il cambio fra il primo e il secondo staffettista di quelli che facevano la staffetta, quindi avevano percorso circa 13 perché km. Perché com'è che funziona? C'è la staffetta. C'è la maratona completa 42 km. Sì, 195, quelli veri che sono in grado. E poi c'è chi non riesce a fare 42 km, ci si mette con altri tre amici, quindi in quattro, e si fa una staffetta circa un quarto di maratona a testa. E quelli che non riescono neanche a fare questo vanno lì a fare le interviste. Il secondo staffettista, quando t'ha visto, era contento? Sì, era contento perché avevo detto un'ora e 20, quindi insomma un'ora e 12. Hai avuto dei problemi fisici? Un po' al ginocchio, ma niente di grave, siamo atleti. Più o meno di gallinari? Ma secondo me il doping tecnico aiuta in questi casi. Cioè, cosa hai fatto? Niente, ho pregato, culo e preghiera si dice. È andato meglio di quello che ti aspettavi o peggio? No, peggio per il problema al ginocchio, direi. Quando sei arrivato quello secondo staffettista era deluso dalla tua prestazione? No, era contentissimo, poteva solo migliorare. Stai aspettando lo staffettista? Sì, ma mi sono preoccupato io. Ah, davvero? Sì, ma è finita la gara, hanno tirato via, sta passando quelli della pulizia, delle strade. Ma che tempo doveva fare? È lui o lei, tanto per iniziare? È un lui, importante anche, un nome grosso, però... Chi era? Uno qualsiasi, no? Il problema è che era l'ultimo, questi qua erano gli ultimi, erano andati via tutti. Ma cioè, il nome è grosso? No, ma non, no, era tutta una buffa. No, perché poi ho intervistato il nome grosso. Ah, beh, diciamo che forse oggi ha avuto un problema. Siamo gli ultimi e gli ultimi, ho visto passare gente di 85, 90 anni che già si muoveva. Lui ne ha 50, cosa devo fare? E non è arrivato. Non è arrivato. Ma abbiamo notizie, abbiamo telefonato ad amici. Ho provato a chiamarlo, è lì col telefono, ma non riesce a parlare. Cioè, da quanto tempo era passato dall'inizio? Era passato un'ora, quasi un'ora e 40, e praticamente... E poco tanto. È tanto, è tantissimo, tanto, nel senso che dovevamo fare 13 chilometri, quelli che ci mettevano... 13 chilometri, scusa, un'ora e 40. Un'ora e 40 è tantissimo, quelli che... Hai sentito, la ragazza prima ci ha messo un'ora e 13, quindi era già passato più di un'ora e mezza, avevano tolto le transenne, era passato... È passata la macchina della polizia, è passata l'ambulanza. C'era già il traffico, c'era già il traffico. Aveva tolto il fettucciato, aveva tolto tutto, c'era lui che aspettava ancora questo staffettista. Ecco qua. Beh, perfetta forma direi, no? Il cambio. Che splendore. Finalmente il cambio degli ultimi staffettisti. Com'è andata? Eccoci qua il cambio. T'aspettava lui? No, di base crampi dall'11° in poi. Ah, perché fino all'11° era in testa, fai i primi. Infatti ho rallentato un po'. No, perché lui era preoccupato. No, io, ripeto, fino all'11° avevo il mio ritmo, ma andavo. A un certo punto, crampo. Bello questo del mio ritmo, non vuol dire nulla. Cioè, il mio ritmo, se uso il mio ritmo, io ci passo due giorni a fare i 13 chilometri. E poi, crampo. Certo. Non volevo fermare, cioè, forse adesso mi fermavo, per cui ho dovuto rallentare e poi ripartire. Vabbè, comunque l'hai portato. Guarda che tempo hai fatto, più o meno. 1.38. E ti aspettavi di fare? 1.30. Ha lo stesso atteggiamento del Milan quando poi gli parlavano appunto della partita del Barcellona, diceva c'era Messi. Messi. Messi, cosa possiamo farci? Cioè, c'è Messi. Però se ci sono i crampi è uguale. Si coglieva la sofferenza. Nella sua voce si coglieva la sofferenza. Sai che mi aspettavo di più? Più il fiatone, questa cosa un po' più. Però era sudato. Sì, vabbè. Lui era veramente sì, sudato. Cosa che non eri tu, quindi togliti la sciarpa. Però per l'asciugamano. Diciamo per affinità con l'atleta, anch'io sudavo. Punizione intanto dell'Udinese che sta vincendo con una doppietta di Natale, lo diciamo per quelli che hanno in qualche modo seguito e hanno a cuore il fantacalcio e che tanta bella gioia ha dato anche quest'anno il buon di Natale per quelli che ce l'hanno. Esatto, infatti. Per invece quelli che non ce l'hanno, insomma. Hanno preso Muriel, insomma. Punizione di Dusan Basta, la palla finisce sulla barriera, poi esce in fallo laterale, 39° minuto, Udinese 2, Chievo 1. Ancora l'Udinese in attacco con Di Natale sulla destra, ma... 349 238 6666 349 3899386666, perché poi i miei amici mi hanno cazziato perché non lo dico troppo velocemente. C'è il terzo gol ancora dell'Udinese ed è Angella, mi sembra. Angela. Così a occhio, sì sì, potrebbe non, essere non, lui. È, non è valido. No, aspetta, no, Benatia, che spavento Angela adesso, esatto. Scusa, È Benatia al 39esimo che mette la palla su un cross dalla destra deviata dal portiere, quindi Udinese 3 Chievo 1. Diciamo che Guidolin esprime la gioia interiore che lo manifesta. Ne ripeto il numero perché Benatia ci ha interrotto inopinatamente. Questo gol qua non è uno dei golletti così primaverili, no? È proprio un bel gol. Tra l'altro, cross, vabbè, lui arriva Benatia, tira giù una cannonata. Era a un metro e mezzo alla porta e il portiere era dall'altra parte. Quindi. Non difficile, direi nel suo genere. Assist di Natale, perché non la tocca nessuno. Grande assist di Natale, sì, ancora uno 0,50 in più, insomma. Un punto in più. Punto, giusto. 349-238-6666. Piano. Ho sbagliato? No, piano. Ah no, che spavento. No, devo dirlo piano, però in realtà è giusto. 349-238-6666 per quelli che vogliono mandarci gli sms. 800-24-00-24, 800-24-00-24 per quelli che vogliono telefonare qui direttamente da Evai, ma soprattutto potete andare già a vedere delle foto, no? Più o meno interessanti, no? Su quello che accadrà in questa trasmissione sulla nostra pagina Face. Ci sono anche delle foto della maratona, perché abbiamo fatto qualche foto. Quella degli altri, non la tua. Non è che ti sei autofotografato mentre eri lì che stavi facendo le interviste. No, potevo... Abbiamo altri, a parte il grande Vucinic che ha sicuramente allietato alcuni fantacalcio qua e là, abbiamo qualche altra cosa di interessante? Sì, ricordiamo che oggi alle 12.30 si è giocata Fiorentina-Milan fra i fischi contro Montolivo. Ricordalo. Il risultato è stato 2-2, è passato in vantaggio 2-0 il Milan con Montolivo e Flamini, e poi il pareggio della Fiorentina con due rigori, il primo di Ljajic, il secondo di Pizarro. 2-2 fra Fiorentina e Milan. Dov'è che c'è il cielo plumbeo? Il cielo plumbeo è sulle Dolomiti, visto che stavamo parlando di tempo, del sole che c'è. Dice che cosa? E dice che nelle Dolomiti cielo plumbeo, un messaggio che è arrivato sulla pagina Facebook di Dai e Vai, durante l'incontro di seconda categoria calcio tra la squadra locale dell'Auronzo di Cadore e un'altra squadra da casa mia, non capisco chi siano. Questa è la precisione dell'ascoltatore di Dai e Vai. Cosa vuol dire, scusa? Però ha dato il meteo, almeno questo. Spero che quello sia preciso più diciamo della partita. È strano, mi dispiace, Luca Cancellara non è qua, potrebbe dare lui finalmente la notizia dal punto di vista ciclistico, che mi sembra quella più adatta da questo punto di vista per lui dare questa notizia. Esatto. Sarebbe importante dare questa notizia, ma purtroppo non c'è. Invece allora ci spostiamo su un altro sport, ci portiamo direttamente, nel frattempo noi vi illumineremo d'immenso su tutti i gol possibili di questo campionato così avvincente in questo finale travolgente. Beh, no? Siamo attorno al 44esimo, tanto per darvi un'idea dal punto di vista tempistico. Quindi tra un po' finisce anche la giornata di oggi. Partite, esatto. No, però adesso illuminiamoci su questo Nettuno Baseball. Sì. No, perché dobbiamo parlare del Nettuno Baseball, dobbiamo parlare del Nettuno Baseball, perché è una cosa importante, e quindi ne parliamo direttamente con Alberto De Carolis, del Nettuno Baseball. Il direttore generale del Nettuno Baseball. Ricordiamo Nettuno Baseball, una delle squadre più titolate d'Italia, anzi forse il club più titolato d'Italia, perché ha vinto 17 scudetti nel baseball e ha rischiato di non riuscire a iscriversi al campionato di Serie A che sta partendo in questi giorni. De Carolis, buongiorno. Buongiorno a voi. Come sta? Bene. Bene. Cos'è successo? Come mai il Nettuno, questa squadra piena di storia nel baseball, ha rischiato di non iscriversi quest'anno? Ma no, il problema è che noi avevamo un abbinamento storico con il Caffè Danesi. Sì. E questi per problemi loro interni, 10 giorni il campionato, tieni presente che il campionato è iniziato ieri, e circa 10 giorni fa ci hanno detto non possiamo fare più la sponsorizzazione. Cioè, quindi di colpo lo sponsor vi ha abbandonati a 10 giorni dall'inizio. Ci ha detto che non era più in grado di fare lo sponsor, anche se devo dire che in questi giorni, proprio in queste ore, forse si è riaperto uno spiraglio con loro, però... Ecco, ci ha detto questo e per noi siamo rimasti di stucco. lungo, perché abbandonati così a 10 giorni, chi andavamo a prendere? Cioè, noi viviamo con lo sponsor e soprattutto con i giocatori locali. Poi per avere una squadra competitiva avevamo 3-4 stranieri, cosa che adesso abbiamo, per adesso abbiamo dovuto rinunciare perché non abbiamo i soldi. E poi abbiamo avuto il grande conforto dei giocatori di Nettuno, i quali giocano senza soldi praticamente. Ah, così, quindi gratuitamente. Si torna un po' al servizio civile, in questo caso per il Nettuno, insomma. Sì, ma, sì. 17 scudetti, giusto? Avete vinto in qualche modo? 18. Ma ieri com'è andata ieri? Avete giocato? Ieri abbiamo perso tutte e due, perché siamo andati a giocare con tutti i ragazzi nostri. Logicamente le finanze sono quelle che sono, abbiamo giocato a Parma. Vabbè, che siamo partiti ieri mattina alle 5. Ah, quindi neanche il pernottamento fra... Nemmeno il pernottamento, perché in questo momento non ce lo possiamo permettere. Certo, certo. E adesso vediamo che succede. Intanto abbiamo fatto la prima giornata. Comunque il campionato lo faremo, certo, non lo faremo probabilmente cercheremo di farlo nel migliore dei modi. E almeno che non si apra qualche cosa, non lo so. Sì, ma adesso prima lei gli è sfuggita una frase, no? Non si capisce se è una speranza o un dato di fatto. Lo sponsor ci ha ripensato un po', c'è un avvicinamento, insomma. Ecco, è una speranza più che altro. Sì, sì. Però ecco, sembra che ci sia stato un contatto in cui, vabbè, rivediamoci un attimo, vediamo quello che possiamo fare, sì. No, anche se non quello degli altri anni, però perlomeno garantirci alcune cose. Però la benzina delle trasferte, insomma. Ma le trasferte per loro abbiamo sistemato il trasporto, in quanto è venuto in nostro soccorso, devo dire grazie al credito cooperativo italiano di Nettuno, il quale ci ha assicurato intanto i soldi per le trasferte. Senta, De Carolis, lei che caffè beve? Come? Che caffè beve in questi giorni? Però? Caffè? Beh, io di solito prendo senza zucchero. No, però... ma che marca di caffè lascia sceglie? Stare, cioè, ma io per quello che capita, certo. Certo. Anche Danesi Caffè, se il caffè è buono. Sì, certo. Se ci fosse un caffè particolare, insomma, sarebbe però utile. Per di avvisare, ci ha assicurato pure il campionato per tanti anni. Certo. In questo momento per questioni interne loro, adesso ho detto ci abbiamo questa speranza, speriamo che se... Ma forse il problema non è tanto che loro hanno deciso di non sponsorizzare, perché ve l'hanno detto a 10 minuti dall'inizio del campionato. Ma è quello il problema, perché sa, detto a 6 mesi prima, in ottobre, magari siamo trovati nelle stesse condizioni, però avremmo potuto programmare. Tenga presente che ci siamo... che noi per esempio avevamo dei contratti con degli stranieri che abbiamo dovuto annullare. Certo, e l'hanno presa non molto bene. Senta, e l'hanno presa non molto bene. Certo. L'allenatore è cambiato, è rimasto oppure... No, è rimasto, Baggialemani. Anche lui non... anzi lui sta collaborando moltissimo. Baggialemani è un nome storico del baseball italiano, esatto, ricordiamolo. Cioè, esatto, uno dei giocatori più famosi del baseball italiano. Ecco, direttore, ci garantisco soltanto questo, non faccia pagare il biglietto ai ragazzi quando devono venire a giocare, insomma. No, questo... ci mancherebbe. grazie, a presto. Grazie a voi dell'ospitalità, grazie. A presto. Grazie. L'unica cosa che potevamo fare è in qualche modo segnalare, esatto, no, questo problema Nettuno, non so, in questo caso, no, perché sono lì, sono tutti bravi ragazzi, esatto, ma non po- lo so, io non li conosco, però sono bravi ragazzi, è un immagino. Po' come la Juventus del baseball, no, questa, buonanotte, no, è veramente, sì, come adesso, la Juventus del baseball, non esageriamo, intanto, cioè, è finita Genova, Palermo 3, Sampdoria 1. Stai parlando degli scudetti? Sì, degli scudetti. Come ti permetti? No, scusa, adesso ce ne abbatti via quanti? 12. Vabbè, però via. Loro ne hanno vinti 18, che è il massimo. Sono del 30 ho capito, ma il massimo del baseball italiano. No, in questo voi senso, ne avete vinto, cioè, scusa, 28, e che è il massimo del calcio italiano. Ti ringrazio per questa precisazione, esatto. Voglio dire, da questo punto di vista ci illumina di immenso. No? Voglio dire, adesso non so, cioè, poi, se c'è qualche sponsor che in qualche modo è interessato al baseball, in questo caso al Nettuno, che comunque è la squadra più titolata del baseball italiano, ricordiamo l'800-24-0024, ma se siete particolarmente timidi potete anche avventurare direttamente sugli SMS al 349-238-6666. I need a home, I need a home to feel safe and secure. I need a family to feel at home. My heart is finally at peace. need a man to touch. Guarda, non so se ce la fai, però dai i risultati di oggi, eh? Almeno soltanto i risultati. I poi risultati vediamo, sono stati 2-0-0, che sono Catania-Cagliari e Siena-Parma, e 2-3-1, il 3-1 dell'Udinese sul Chievo e il 3-1 del Palermo a Genova sulla Sampdoria. Semplicissimo, sì, veloce. Poi stasera cosa ci sarà? Stasera ci sarà Inter-Atalanta, Milano e Napoli-Genova. Ricordiamo, domani il derby di Roma fra Roma e Lazio. Ti do ancora altri 30 secondi per dare anche i marcatori. Certo, marcatore ovviamente solo di Sampdoria-Palermo e di Udinese-Chievo. A Genova, per il Palermo, Von Bergen, Garcia e Ilicic, per la Sampdoria Munari, e a Udine doppietta di Di Natale col gol di Benatia per l'Udinese e Papp per il Chievo. Adesso ti sei agitato. Dovevo agitarmi? No, ti sei agitato. No, un mi sono agitato. Non è bellissimo. Free, so why was, why... Balotelli però non ha segnato. No, lo diciamo. No, non ha segnato. Non ha segnato. Balotelli non ha segnato. Montolivo in mezzo ai fischi. Fischiavano tutti a Firenze. E lui è arrivato a errore di Pizzaro nella tre quarti della Fiorentina. È arrivato Montolivo, gli ha rubato palla solo davanti a Viviano. Gol 1-0. Allora, se la situazione politica non fosse così nebulosa. La metti in politica? No, dico, voglio dire. Quello che è accaduto a Firenze nella tribuna, sì, no, potrebbe, cioè, essere una cosa normale. Cioè, un signore, tra l'altro anziano, esatto, non è stata proprio una vera aggressione. Un signore anziano è andato a insultare il buon Galliani e Renzi ha bloccato il signore. Dai e vai. Non è solo calcio. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? If I'm the BG, BG, yellow Pocahontas, we're the night walk hunters and we don't bow down on nobody's ground. Adesso Luca Cancellara, adesso io non vorrei dire, adesso sei un po' montato perché scatti foto, fai quelle cose un po' così da cronista, insomma, ecco, però non ho capito perché io mi sono messo vicino, ho cercato di mettermi anch'io all'interno della foto e beccato soltanto Luca Gattuso e il nostro ospite e io sono tagliato fuori ancora una volta. Vabbè, non ci stiamo tutti. No, resto qua, pulisco un attimo il tavolo, poi dopo il mixer, le solite cose. Cioè, sempre che ti dico che non ci stiamo tutti. Io potevo trattenere il respiro, ci stavo dentro la foto. Non ci stiamo, te lo dico. Guarda, anche perché lui ha un braccio che è grande quanto una mia coscia, tanto per avere i punti di riferimento. Infatti ti chiamano coscetta di rana, esatto, te, non è per dire. Dai vai, Radio 24, l'ospite che è qua, noi siamo riusciti a recuperarlo mentre lui è accorso veramente, non come te, capito? Sì, beh, no, una parte adesso, non tutta. Ecco, tu neanche quella parte hai corso, ecco, diciamolo chiaramente in questo caso qua. Daniele Molmenti, guarda, io di pure qualche cosa al microfono perché mi emoziono io di fronte a queste cose. Buonasera, ciao, buonasera. Okay, a tutti, grazie dell'invito. Bellissimo, bellissimo, già questa voce, ricordiamo soltanto Londra, oro. Cioè, sì, capito, no? Poi dopo abbiamo i campionati mondiali di slam, abbiamo un bronzo e un argento, poi abbiamo i campionati europei, oro nel 2009, oro nel 2011, oro nel 2012. Anche vinto un mondiale, Coppa del Mondo. No, sì, basta, sì, devi girare. Cioè, Coppa del Mondo, 23 campionati italiani, 5 medaglie agli europei, cioè ne hai vinte di ogni. No, diti pure al microfono. Di pure al microfono. Sbagliato? Qui c'è scritto, tu hai sbagliato. Wikipedia, cos'è sta roba? Non hai aggiornato Wikipedia, di verità. No, c'è mio cugino, mio zio che li aggiorna, però c'è uno che mi anche sta sulle palle e cambia sempre. Ne hai 25 o no di europei? Sì, cioè, i campionati italiani 23, giusto? 23, no? 23, 24, manca uno. Ah, manca uno. Coppa del Mondo 1, Mondiali 1, Giochi Olimpici 1, giusto? A posto? Sì, ciao, quindi non è che ha fatto delle cose pazzesche Wikipedia, adesso non trattiamoci così. Però la cosa vera, la verità adesso che va molto di moda, no? E la trasparenza anche che va molto di moda. Insomma, allora, com'è andata stamattina? Niente. Bene, bene. La passeggiata, infatti, no? Un paio di mesi recupero la fatica, i dolori, no, però ne valsa la pena davvero. Sì. Ero partito male ieri, perché io non sono un gran corridore, poi vengo da un periodo dove ho corso davvero poco, però era per un buon motivo, correvamo praticamente per un'associazione che raccoglie fondi per portare l'acqua in un orfanotrofio in Congo. E quindi era valsa la pena lasciarsi le scarpe. Parto con calma, arrivo con calma. Ma tu hai fatto però la staffetta, no? Staffetta. Sì. Chi eravate nella staffetta? Fabian per primo, che io, è il triatleta che è arrivato decimo Olimpiadi, esatto. Sì, certo. Poi io per secondo, che sì, dovevo recuperare, perché lui non è fortissimo alla corsa, no? È un po' così, insomma. Dopo di me c'era Zorzi. sci di fondo, Zorro, esatto, il mitico, beh, 3-4 medaglie olimpiche, sì, così, esatto, sì, anche lui a Torino 2006, sì, eccetera. E il quarto doveva essere Clemente Russo, ma ci ha tirato un pacco. No, no, si è stato si è malato. Hai detto giusto, cioè, tirato si un è pacco. Fatto venire la varicella, cioè vergogna, che vergogna, adesso che vergogna, sembra, non sembra credibile la varicella. No, vabbè, assolutamente, Clemente, a 30 anni, 32 anni, lascia stare, che è un'altra storia questa, guardare su Twitter, guardiamo Twitter. Andiamo. Il suo pettorale l'ha vinto, diciamo, all'asta un ragazzo, si chiama Fabrizio, sì, di non mi ricordo dove, non mi ricordo, sì, il cognome, però sì, corre, è uno, anzi, sì. Posso dirvi che è quello che è andato meglio? È quello che è andato meglio, perché ha fatto 32-35 sui 9 km, che, cioè, non è un brutto tempo 32-35. Ma aspetta, faceva meglio per gli ultimi 500 metri, c'eravamo noi e l'abbiamo rallentato un bel po'. ecco. Cioè, lui poteva andare molto più veloce, insomma, in questo caso qua poteva competere, insomma. Comunque 2 ore e 50 minuti sulla maratona della vostra staffetta, diciamo un buon risultato. Con Clemente sarebbe andato peggio di sicuro. Ma no, sai che i pugili fanno quella corsetta, sì, leggera, capito, magari. Cioè, io l'ho visto sempre, no? Stallone, quando faceva, esatto, quella cosa. Sulle no, scale, Rocky, però. Su Rocky. Stallone correva. Su Rocky. No, ma guarda che è tutta scena, tutti i pezzettini che venivano attaccati uno dietro l'altro. Però correva anche lui, insomma. Comunque i pugili devono correre, insomma, devono almeno fare le scale di corsa. No, verso, no. Però torniamo a noi, torniamo soprattutto a te, Daniele, ti ho del tu, no? Sì, cioè, in questo, sì, caso, beh, perché è così. No? Ecco, perché noi ci siamo sentiti, tu stessi andato nel Grand Canyon a pagaiare, insomma, in qualche modo 20 giorni più 20 o meno, giorni. 20 giorni, esatto, ecco. È una spedizione praticamente, un po' come, non so, per un alpinista farsi l'Himalaya, sotto via un mese, sì, faccio. Per Paolo erano 30 anni che aspettava di andare, perché i permessi per andare non è così facile prenderli, no? E un po' le mie conoscenze, un po' il palmarès, un po' una botta di fortuna, sono riuscito ad avere questi permessi quest'anno, tra l'altro l'anno dopo le Olimpiadi, dove possiamo prenderci anche un mese di relax dalla fatica dell'allenamento quotidiano, e gli ho fatto un regalo, ho detto Pierpa, si va. Io sono rimasto ancora a quella frase che tu hai detto prima, cioè, come gli scalatori vanno a farsi l'Himalaya. Questo, cioè, quando ti annoi prendi, ti fai l'Himalaya. In questo caso qua tu ti sei fatto il Grand Canyon, cioè è stata dura, eh? Ma pensavo. La cosa è molto affascinante immaginarla, da come c'è anche nel collegamento che avevamo fatto tempo fa. Era veramente una cosa molto bella. Le immagini che abbiamo in qualche modo intravisto sono ancora più esaltanti per certi versi. Com'è andata? Allora, io pensavo fosse molto più facile. A livello di ambiente è stato un po' pesantuccio, perché parti comunque in un altopiano desertico dell'Arizona, e quindi durante il giorno si andavano a 30 gradi secco, e di notte però ogni tanto c'era anche la neve, quindi c'era un'escursione decisamente forte. E poi, insomma, il fiume è uno dei più grossi al mondo, parliamo di 1000 metri cubi al secondo, ecco, tipo tre volte il Po, soltanto con una pendenza un po' più importante, quindi ogni tanto c'erano delle rapide che, beh, trovate poi su YouTube qualche, sì, video, tra un po' uscirà quello. Sì, lo mettiamo anche, tu hai fatto una specie di trailer del video ufficiale, sì, lo metteremo, sì, poi, sì, anche sulla pagina Facebook. Oppure... Ci sono ondine, esatto, decisamente grandi, ecco, no? Ecco, ma per noi ci divertiamo, alla, sì, fine ci divertiamo, non era pericoloso a livello tecnico, ho fatto cose peggiori, ti raccontavo, sono andato in Messico a fare cascate di 10-15 metri, quindi insomma... Anche lì ti annoiavi e hai deciso, buttiamoci giù di lì. Avevo 6 giorni di ferie, ecco, vado in Messico. È giusto, è vero. Beh, certo, un po' quello che diceva anche noi. Senti, ma quando vedi quelle rapide lì, cioè tu non ti preoccupi, vai come se stessi camminando praticamente? Beh, o c'è, cioè, sei comunque un, sai, minimo di preoccupazione? Ci sono i vari gradi, no? Lì, sì, sono dall'1 al decimo grado, e le 2 da 9, le 3 da 8 grado, l'ottavo grado, quindi diciamo quelle più impegnative, siamo fermati prima, abbiamo un attimo visto dove bisogna passare, perché ci sono delle onde dove è meglio che non ci vai dentro, perché esci quando decide lei. Certo. Se esci. E quindi questo è un po' più preoccupante. E voi avete fatto questo periodo, poi il pernottamento com'è? Avevate le tende oppure c'erano delle zone di sosta? Era una spedizione con altri 8 rafting, sì, e in uno dei rafting abbiamo messo il nostro equipaggiamento, quindi la tenda, un po' il mangiare, i vari freezer, queste cose qua, e si pagaiava dalle 4 alle 6 gli ultimi giorni, anche 8 ore al giorno, e si dormiva poi nelle varie spiaggette, nei canyon laterali. E... no, una figata. No, bene, quando fa il tecnico così è fantastico. Non riesci a stargli dietro. Senti, non riesco talmente a stargli dietro che mi collego col traffico in questo momento, guarda. Dai e vai. Non è solo calcio. 349-238-6666, se volete mandare anche delle domande, fare delle domande al nostro Daniele Molmenti, che è qui. Noi ne abbiamo abusato, visto che si è fatto così nel tempo, a tempo perso, ha deciso di dedicarsi anche un po' alla maratona, appena ha fatto un pezzettino importante, una maratona impegnativa per certi versi, per quello che voleva significare. Però volevamo anche chiedere alcuni passaggi, perché il passaggio della serie in qualche modo bisogna distrarsi, bisogna distrarsi in particolare dopo l'oro di un'Olimpiade, e di questo è una cosa molto importante, molto interessante, cioè nel senso che capire bene quanto noi abbiamo in qualche modo anche intervistato anche altri atleti che hanno vinto le Olimpiadi, e in qualche modo cambia del doppio Olimpiadi, cioè la medaglia d'oro è un qualcosa che cambia la vita per l'atleta, giusto, in qualche passaggio? Sì, no, ti cambia sul serio. Cambiano i rapporti sociali. Se prima nessuno ti cagava, si può dire cagava in televisione, qua, beh, sì, in radio, dove siamo. No, nessuno che deve entrare un po' per preoccupante. Diciamo che se prima eri famoso nel tuo quartiere, adesso sì, lo sei un po' in tutta Italia. Fortunatamente dopo qualche mese comincia a calare anche questa cosa qui, sì, sapete, no? La curva degli Olimpici. Ci stiamo dando troppa attenzione, se vuoi. No, beh, infatti. Lascia per te, ne ha fastidio, chiudiamo. Ed è difficile, gestire il tutto, perché entri in un vortice mediatico che non sei abituato a gestire, e io mi sono trovato a lottare contro le domande dei giornalisti che continuavano a dirmi sta pennetta, ho cose più interessanti di questa pennetta, bene, è una grandissima atleta, però voglio dire, c'è anche cose più interessanti. No esatto, spieghiamo la vicenda della pennetta, però, perché magari nessuno la conosce. Non vuoi parlare della pennetta? No, non ne vuole frega, no, spieghiamo, scusa, basta. Sta dicendo di non parlare della pennetta, tu vuoi parlare ma della pennetta? Ma sei tu che mi hai detto, guarda, allora costruiamo tutta l'intervista, poi a un certo punto arriviamo sulla pennetta. Poi adesso dovevi entrare dentro la pennetta, però se lui ti ha bruciato. No, lascia perdere la pennetta, cioè. Sì, no, che poi ce lo dici fuori onda, voglio dire, cioè. È stato anche un errore proprio di lessico, perché cosa vuoi fare prima che vai a casa? Mi faccio due pennette, no, esatto. Subito gossip, no, certo, la pennetta, non ho neanche capito, no, niente. No, niente, che praticamente entri in questo vortice ed è difficile gestire, e hai richieste di andare in tutte le parti, andare di qua, di là, Milano, Roma, su e giù. E lo fai anche perché non è più gare, lo fai anche, cerchi un po' di visibilità per tirar fuori qualche sponsor magari, per ripagarti dello stipendio che hai messo negli ultimi 4 anni, per fare l'in più che serve per fare la differenza, no? Però cambi mestiere, fai un'altra cosa. Sì, quel fai un'altra cosa. Devi curare la tua immagine in questo passaggio come primo elemento, e quindi lo sport c'è e diventa uno strumento, cioè, cosa succede? Succede che vai in paranoia, perché cominci a farti delle domande, cominci, ma io sono portato a fare questo, a fare quell'altro, vedi gli esempi degli altri atleti, c'è qualcuno che vince, va in TV, diventa magari famoso e gira col macchinone e dopo sparisce come atleta. Cioè, io ho visto scene che qualcuno si ricorda di qualche. Non farò nomi, eh. Sì. No. Però, cioè, Kira? Diciamo che io vorrei essere ricordato per essere stato un grande atleta, no? Per aver fatto ballando sotto la luna, la trasmissione. E quindi cominci a pensare, cominci un attimo a valutare dove andare, se vale la pena comunque farlo. Erano le stelle, non volevo dirtelo. Sì, no, non guardo. No, così no, non c'era. Non ho neanche la TV, sai. Ecco. Devo dirlo che mi arriva sempre il bollettino della Rai. Sì, dai, dillo, tanto. No, dillo, non ha la TV. E niente, no, vai un po' in paranoia e cominci a pensare. Noi atleti non siamo abituati a pensare, no? Noi siamo abbastanza animali. Sì, non dirlo a noi che dobbiamo intervistarli, figurati. Passiamo delle ore così cercare di fare delle domande facili. E quindi sì, è un periodo, diciamo, difficile, e qualcuno riesce a gestirlo e qualcuno riesce a mandare al diavolo. Diciamo, la maggior parte dei giornalisti magari un po' più in piccioni e ritorna ad allenarsi. Il problema è quando vinci tutto, lì quello è il problema, perché tu hai vinto tutto, nel senso che abbiamo visto prima il tuo palmarès, hai vinto le Olimpiadi, i mondiali, la Coppa del Mondo, l'Europeo, gli italiani, cosa e c'è? Anche quello di quartiere, cioè, tra l'altro mancano, cioè, i comunali giochi della gioventù, no, i campionati interplanetari non li fanno ancora, perché su Marte, su Venere non c'è l'acqua, non c'è quindi acqua, e quindi ti dici, ma cosa facciamo, altri 4 anni così come gli ultimi 4? Anche no, cioè, ho il vomito che è un male tutto il giorno, il mignolo che non lo sento più, tanti sacrifici che non è il bere, fumare, queste cose qua che comunque le fai perché fanno male, e andare lontano, perché comunque in Italia un canale come quello che avete visto a Londra purtroppo ancora manca, quindi bisogna Lo costruiranno neanche, mi sa. Ma o c'è qualche progetto? Ci sono tanti progetti e vediamo se questa medaglia ha portato più interesse, perché comunque sono canali che si ripagano col turismo, con i rafting. È un canale che farebbe bene non soltanto la canoa italiana, ma proprio lo sport italiano. È un canale, sostanzialmente un canale artificiale che viene costruito in un parco, in pratica. Sì, ma considera un acqua splash con uno scivolo molto grande dove vanno giù con i rafting, con i gommoni, con le barche. Noi facciamo slalom praticamente, quindi anche divertente. E considera che in Italia sarebbe, non so, metti all'altezza di Roma, ancora più giù, sarebbe il più basso, diciamo, in Europa. Quindi al posto di andare a Dubai o in Brasile o in Australia, come fanno tutte le squadre più importanti, verrebbero in Italia, quindi sarebbe una roba anche interessante. Ma chi ha quell'argomento lì, perché mi interessava, perché mettiamo una chiusa sul trovare stimoli per poter per andare avanti, no? Perché un atleta sì, ha bisogno di stimoli, perché non è che facciamo fatica. E tu che hai facciamo vinto tutto fatica... adesso, qual è il punto di riferimento? Cioè quello che sono in qualche stato modo... il primo, proprio il primo K1 al mondo a vincere tutto. Quindi potrei essere il primo capone al mondo a vincere tutto due volte. Ah, quindi devi rifare tutto quanto il giro. Senti, quanto incide in questa spinta a continuare? Quanto incide il tuo allenatore? Tanto, lui ha fatto Pierpaolo Ferrazzi, anche lui forestale, anche lui medaglia d'oro alle Olimpiadi. Lui ha neanche un'altra, è anche questo che mi fa fastidio. No, che insomma devo anch'io prendere... E mi ha fatto fare il salto di qualità, perché dopo Pechino, la sconfitta di Pechino nel 2008, mi serviva un allenatore che fosse stato anche lui atleta di alto livello, quindi che conoscesse le sensazioni, il feeling, no, che c'è prima di una gara, perché sa cosa dirti, sa guardarti negli occhi e sa come calmarti o sa come eccitarti se ne hai bisogno. Quindi è stato davvero importante averlo a fianco. Senti, è arrivata una domanda, mi chiedevo ma Molmenti cosa farà da grande quando smetterà? Questo è Sebastiano da Bassano. Da Bassano, ma io ho diverse porticine aperte, ho comunque una società sportiva dove sto cercando di fare comunicazione per le società della mia zona, Pordenonese, così dare una mano ad altri atleti. Cioè io ho una bomba qua, ragazzi, però cioè posso darvi una bomba? Vai con la bomba. Diamo la bomba. Siamo qua. Va bene, mi gioco. Attenzione, la bomba di Molmenti. Stiamo per lanciare direttamente l'agenzia. Vai. Pronto, Stai attento a quel che dice. Sono un feudatario. Feudatario? Sì. Ah. 5 ettari di terra. Ecco. Coltivata? Coltivata vigna, ovviamente, sono friulano, quello che ci metto. E quindi vabbè, insomma. E quindi no, c'è l'idea comunque anche di fare questo, ormai fatto, insomma, sì, ho un mutuo per i prossimi 20 anni, no, però l'idea di avere una vigna, di avere un vino Molmenti, perché vino voi sapete Molmenti, che nel Bresciano c'era già una vigna Molmenti, il primo rosé. Ma hai beccato due astemi, esatto. Ti dico questa notizia, voglio dire, sono momenti difficili, cioè, voglio dire, non possiamo farci niente. Va in onda a parlare della sua vigna, del vino Molmenti con due astemi, ma più fermo o più mosso? Ma cosa c'è? Non fare domande. Diciamo che c'è un po' di tutto. Ha passato un po' di tempo, quello faceva anche. Ma vi spiego perché. Perché è una bomba e voglio la pagina su Sole 24 Ore. Cioè, adesso la vedo dura. Sentiamo. Comunque proviamo. Guarda, io vado in giro per bar, così per amici. Così. Tutti quelli che parlano di crisi, cosa bevono? Vino. Molmenti. Non ancora. Ma bevono per dimenticare, tra le altre cose. Vabbè, comunque questo, è un buon business. In questo passaggio. L'ultima cosa che invece forse possiamo toccare con mano è. No, la cosa che volevo chiedere. Adesso hai altre avventure, perché queste cose qua sono collaterali rispetto agli allenamenti, cioè il Grand Canyon non è un allenamento? Ma è un'esperienza di vita, esatto. Però poi quando pagai insomma 4-6 ore al giorno con quelle condizioni sono tornato a casa con ancora più in forma. Un'esperienza di dolorosa partito. Di vita, sì. Però meritava. Una volta nella vita bisognerebbe farlo, magari due. Hai altri eventi di questo genere, a parte buttarti giù nel Messico nelle cascate dei 15 metri, cioè voglio dire, hai altre situazioni un po' particolari e altre esperienze un po' anomale? Ci sono dei torrenti nel Friulano che bisognerebbe fare e sto organizzando di farli, come l'Arzino, nella Val d'Arzino, praticamente a nord di Pordenone. C'è questo torrente che è ancora un po' vergine, insomma. Ci sono torrenti in cui non c'è mai andato nessuno in canoa? No, magari c'è stato, però sai, ogni piena cambia qualcosa, certo. E quindi bisognerebbe fare una cosa un po' più ordinata. No, ecco. Sì. E tu poi... sei l'uomo d'ordine, arrivi, dici si passa di lì, poi di là, quella roccia di lì. Sì, sì. Cioè metti un po' così in riga tutti quanti. Senti, purtroppo stiamo andando a chiudere, io passerei tutta la giornata con te, non è vero, tranquillizzati. No, però la cosa che ci interessa in questo caso qua è un commento anche calcistico, perché poi dopo non è solo calcio, ma ogni tanto è anche calcio. No, guarda, oggi tu... proprio oggi. Perché oggi, come si sembra un momento così, però avete fatto un risultato a Firenze, un risultato importante, no? Voi milanisti, giusto? Perché mi stai prendendo che io, cioè, uno del pubblico mi ha urlato 1-0 da 5 al chilometro, ho fatto 3 il chilometro dopo, un altro mi ha detto 2-0, no, sai, cioè, e tu acceleravi, io acceleravo poi siete riusciti a far rigore. Segnare Flamini pure oggi ha segnato, cioè, per dirti. Meno male che non l'ho vista, no, allora capita dei momenti quando, pur essendo di altissimo livello. Scusa, stai facendo un po' il giornalista radiofonico che parla di calcio con questo tono. Lo dico, perché sai come sono. No, scusa, così. Presentiamolo bene, il pippone calcistico di Daniele Molmenti. Vai. No, diciamo che il Milan è in una situazione difficile perché, sai, essere in vantaggio di 2-0... e giocarsi punti importanti per la Champions del prossimo anno e quindi guadagnare al secondo posto dà delle pressioni che soltanto atleti di altissimissimo livello riescono a gestire. Certo. Probabilmente, dovrei esserci tu, quindi. Probabilmente. Scusa. No, ma adesso, apro una parentesi. Sì. Da quando io sono andato a Milanello, ha cominciato a vincere. Chi? Il Milan. Ecco. Vabbè, lascia stare, ci sono delle certezze che poi uno ma una radio con milanisti non potevate trovarla? No, ci sono giro, cioè, però tu sei andato a Milano a quel momento il Milan non ha più perso? No, ha fatto la svolta, diciamo. Io l'avevo un po' preannunciata, Daniele, ci tocca ancora andare in pubblicità e ci tocca anche andare col meteo e dopo ci tocca ancora averti qua dopo, e ci salutiamo. Dai e vai, non è solo calcio. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. L'ho preparato. Sì, vai. 17:34, sono molmenti difficili quelli che stiamo vivendo in questo momento e lo dico perché c'è stata una citazione, perché quando lui ha vinto la medaglia d'oro, sì, sono molmenti d'oro, hanno detto a Sky. Fantasia, mai sentita. Ha detto, allora, sono molmenti difficili quello che stiamo vivendo noi in questo momento. Vuoi dare tu? Sì, vado io. Allora, ci tu provo. Tu che sai le lingue. Esatto. 349-238-6666. No, questo non è italiano. È il numero dell'SMS, ecco. Allora vado. Bravo Fradis Furlan, o speri di bevi un Thai del Tuneri, Massimo di Cividate. Mandi Massimo. Conosci, cugino? No, parente. Sì, no, beh, sai, in Friuli siamo pochi, ci conosciamo tutti. No? Certo, comunque digli di sì. Vabbè. Mentre quello dopo lo leggi tu. No, leggi tu quello sotto. Quello lo leggi sotto, tu. Cos'è? È questo. Madonne niente. Ma puntini, madonne niente. Non voglio neanche entrare nel merito di questa notizia, che è più gossip, perché noi non ci interessa assolutamente. Però mi conoscono bene. Bene, sì, no, la cosa i plurali di donne. Sì. E come le penne, cioè, esatto. La cosa che invece mi interessa più che altro è che tu hai fatto una guffata non indifferente quando hai detto Milan tra i primi tre posti. Giusto? Mm-hmm. Sì. Tempo fa, in un'intervista, sì, guarda, siamo riusciti a recuperarla. Beh, mi sembra che no, sta andando, a parte oggi, che è stato un momento difficile. L'ultimo periodo sta andando bene. Sta andando, insomma, molto bene. Ma Balotelli, tu l'hai già incrociato, Balotelli? No. Spero di incrociarlo a Pasqua, però... Cosa succede? Cioè, sì, è una battuta molto, molto fine. No, dai, battute a parte. No, è un grande. Sì. Cioè, è arrivato, sta facendo la differenza... E si sta comportando bene, tra l'altro, sì, quindi sì. La mia preoccupazione era quella, no? Che si comportasse bene, no, che facesse Sa che non ha saputo la notizia di oggi, Daniele. Lascia stare, non importa, non dille, perché oggi non dille. Poi te lo diciamo dopo. Perché oggi ne ha fatta una delle sue. Lascia stare, dai, non diglielo. Ma no, sono momenti di gloria, dicono solamente. Chi è Gloria? Subito, in questo caso. Questo è Fabio da Brescia, 349-238-666. vorremmo tra l'altro sapere appunto che cosa può dirci in questo caso. No, però la cosa che in qualche modo noi possiamo ancora fare è leggere quest'altra notizia, quest'altra email, anzi SMS al 349-238-6666. Da bambino ho creduto che Nottingham e i suoi abitanti fossero mostri e martiri espressi da una fantasia malata. Questo, quello che tu crei, no, per radio, c'è gente che reagisce in questo modo. Ma cioè, è evidente che mi sbagliavo. E se lasciassimo tutti uguali per ora, salvo che loro volontariamente comincino a cedere subito un quinto dello stipendio su un bel fondo dedicato. Va bene così. Okay, sono rimasto Nottingham. Ti sei fermato lì, insomma, da questo punto. No, però prima dicevamo gli stimoli che ci possono essere. Tu mi dicevi fare di nuovo il giro, cioè cercare di rivincere di nuovo tutto per la seconda volta. Questo però secondo me è diverso, no? Prima era quasi un dovere, perché io sono nella forestale, quindi diciamo posso dire sono pagato per portare medaglie, no? Quindi era un dovere, poi ovviamente personale, uno spirito agonistico, eccetera. Adesso che ho comunque fatto bene il mio lavoro, posso anche godermi di più il mio sport. Quindi se prima andavo ad allenarmi 6 mesi all'estero, adesso vado anche meno e pensare anche un po' al resto del futuro. I sacrifici che parlavo prima, no? Cioè, posso dire, posso anche farne di meno. Ma tu quanto ti alleni? Quando tu dici io mi sto allenando 6 ore al giorno, sì, sì, in acqua. Tra canoa, palestra, corpo libero. Corpo libero? Corpo libero. Cioè, cosa fai? Ginnastica artistica? Esercizi, pilates, no, è per capire. No, è veramente per capire. Sì, sì, no, esercizi con gli elastici a corpo libero, senza pesi, sono un po' più easy. No. E quanto ci hai allenato per la mezza maratona di oggi? Cos'era stata oggi? No, la staffetta di oggi, cioè. Sono entrato dal Colorado con un mal alla caviglia tremendo. Sì. Ci ho provato a correre sopra e si gonfiava, ho detto "Bon, non faccio niente fino alla maratona". Giusto. E puntavo un 5:30 e oggi un po' il pubblico, un po' la cattiveria agonistica, insomma, alla fine ho fatto anche un bel tempo. Dai, ho dato un minuto a Fabia, voglio dire 50:38 hai fatto. Lui ha fatto 50, sì, ma lui ha fatto 2 chilometri più di te. Vabbè, ma come c'entra? Diamo un attimo una tregua ai nostri ascoltatori e anche al nostro Daniele, perché abbiamo un collegamento importante, perché c'è il campionato italiano, dobbiamo ovviamente trattare questo passaggio. Non fare gesti che ti vedo, c'è la webcam, Daniele, tu hai fatto dei gesti bruttissimi. Quello del flip. No, non era quello del flip, lo dico direttamente. No, parliamo con Alessio Crisantemi, che abbiamo qui direttamente l'organizzatore del campionato italiano di flipper. Pronto Alessio? Ciao, buonasera. Ciao Alessio, ecco qua, dobbiamo accelerare i tempi, però in questo momento qua c'è il campionato italiano, stiamo andando verso la finale, giusto? Sì, no, la finale è in questo momento in corso, anzi siamo nel pieno della suspense, perché la finale si gioca al meglio delle 5 partite e 2 giocatori sono attualmente sul 2-2, stanno quindi disputando la bella. Sì, ecco, infatti è questo che un po' ci metteva un po' ansia. Esatto, perché agitazione. 5 partite con 10 palline? Cioè come... No, scusa, con 5... No, 5... no, ogni partita sono 3 palline. 3 palline, quindi, palline. Perché una volta si giocava con 5, adesso con 3. È cambiato un po'. Esatto, è stata una delle evoluzioni negli ultimi anni, comunque si è passata 3, esatto. 3 palline a partita. Senti, però Alessio, il paese non è pronto al campionato italiano di flipper, non è pronto a tante altre cose anche, però in particolare al campionato italiano di flipper non è pronto, quindi dovresti spiegarci come funziona una gara di flipper in questo caso, cioè si mettono lì con 3 palline, chi resiste di più è per sfinimento, insomma, si riesce a vincere il campionato. Sicuramente la resistenza è una delle virtù richieste necessarie agli atleti, insomma, per arrivare in fondo. Le formule, diciamo, ce ne sono molte, sono diverse, varie in base anche al numero di giocatori, il numero di flipper a disposizione. Diciamo, vi dico come funziona il campionato italiano. Sì, il campionato italiano si disputa su 20 flipper diversi e i giocatori sono inizialmente suddivisi in gruppi di 4. E quindi si sfidano ogni gruppo su 2 flipper diversi con 4 giocatori contemporaneamente, cioè la partita si avvia con 4 giocatori contemporaneamente che giocano una pallina a testa e chi fa più pallina... punti e chi fa più punti vince, chi fa più punti su quella partita lì prende un punteggio per il primo di quel gruppo prende 4 punti, il secondo 3, il terzo 2, l'ultimo 0 e poi si fa la somma parziale della classifica. I gruppi prevedono 8 round e poi fine giornata, questo è successo ieri, a fine giornata i primi 24 passavano il turno alla fase finale. Allora Alessio, noi ci risentiremo più tardi, però dici chi sono i due che si stanno in questo momento contendendo il campionato italiano di flipper? Allora, i due finalisti sono il veronese Cesare D'Atri e il milanese Roberto Pedroni. Grazie, ci risentiamo più tardi. Grazie a voi, a dopo. Ciao. Ciao. If I'm the BG. È il momento dei saluti, è il momento di lasciare andare ovviamente il nostro Daniele Molmenti, perché è giusto che poi prima o poi in qualche modo lui si liberi anche di noi e noi di lui. Molmenti, for president, questo mi sembra veramente imbarazzante. Grande. In questo momento qua nel paese. No, anche no. Perché dice, auguro che la tua avventura vitivinicola sia ricca di soddisfazioni, ma se ti avanza un po' di tempo, il paese avrebbe bisogno di un governo. Quindi se vuoi impegnarti anche per quello. Ma no, al momento no, però più avanti ci penserò. Tanto peggio di così, voglio dire, anche se vado io, non è che cambiamo le cose. Adesso, su, dai. Grazie Daniele Molmenti per essere qui. Grazie, è stato qui. Dai, vai Radio 24 e ci sentiremo comunque. Non penserai di liberarti così facilmente. Cambio di numero. Noi. Vabbè, ma lo recupereremo. Grazie, buona grazie giornata. Mille. Ciao. Bici Mappo. The golden eagle, Bitchy Jake, the white eagle, Bitchy Bowden Dallas, the wild magnolias, Bitchy Peter the black eagle, Cheap little Charles, the white clown hunter, Old Man John, the yellow jackets. No, però voglio dire, lui ha cercato, lui è comunque Daniele Molmenti, quindi non è che si deve allenare. Però è iniziata la stagione delle corse. Sì, cioè un po' tutti si mettono a correre. Cosa fai stasera? Vado di corsa. Ma dove vai di corsa? Cioè, sì, perché d'inverno fa freddo, c'è l'umidità. Comunque ci sono le gare, cioè adesso iniziano le gare. Sì, è la stagione delle... A Milano c'è stata la maratona, però tutta Italia. Poi se ci dovessimo mettere a leggere tutte le gare che c'erano oggi solamente in Italia, ci metteremo almeno un quarto d'ora a leggervi solamente le gare che c'erano, le gare podistiche, 2, 5, 10 km, mezze maratone. Noi non le raccontiamo, però voi dovete raccontarci se siete pronti a andare a fare queste gare, perché poi siete sempre 10, 15, 20, 50 mila in alcuni casi e tutti a correre le varie gare, le varie maratone, maratonine, mezze maratone, staffette, maratonette, le non competitive, perché cioè ci sono qualsiasi anche cosa, vi mettete lì e cominciate a correre. Siete pronti alla bisogna? Siete pronti ad affrontare questa stagione? Beh, noi ovviamente di questo ne parleremo un po' più tardi, no esattamente dopo il traffico che sta per arrivare. Aurora, vi ricordo soltanto il numero di telefono 824 0024, chiamate già subito in questo momento, oppure al 349 238 6666. Questo è Dai Vai, non è solo calcio e quindi anche un po' di maratone. Diciamo, così. Dipende, considerando che è un anziano che si è messo a correre, è andato bene. Cioè, è andato bene, sai come sono. In proporzione all'età, poi sì, in assoluto. Il rapporto al fatto che ha una certa fatto età. Bella figura oppure è andato così. Diciamo, sai, quando arrivi a quella situazione in cui il tuo obiettivo non è il tempo che fai, ma è arrivare. Allora, certo. Uno ci prova, esatto. Insomma, queste cose qua. Qualsiasi cosa poi va bene. Sai cos'è? Che sei avvantaggiato, perché tu quando fai tutti quei chilometri, a un certo punto arrivi e sei un po' annebbiato. Sì, non vedi gli altri come ti stanno guardando con quell'aria un po' pietosa, ho detto, ma perché? Tutti che hanno tutti quello sguardo che dice, ma perché lo fa? Esatto. Perché lo fa? Perché l'ha fatto Mario Beretta questa maratona oggi? Pronto? Mario? Molto, piano con le parole, anziano, queste cose. Attenzione che vi controllo. Mario Beretta, allenatore di calcio di Serie A, oggi si è cimentato in quel di Milano con la sua prima maratona della vita, giusto? esattamente, è stata una piacevole esperienza, piacevole dal tronco in su, che tu sai le articolazioni dell'anca e della ginocchia e della caviglia, sì, un po' meno. Tu sai che la prima maratona non si scorda mai, no? Tra le altre cose, ma io ne ho fatte due, ho fatto la prima e l'ultima anche. Beh, sei portato avanti col lavoro, insomma, in questo caso, è stato così traumatica. Intanto, che tempo hai fatto? Intorno alle 5 ore, insomma. Un tempo infame, però. C'è una giornata. Però c'è da dire che correre per 5 ore non è male. Beh, sì, è vero, è vero. Se ci pensi, correre per 5 ore è veramente tanto. È terrificante. No, comunque, no, è stata una bella esperienza. Devo dire che, ripeto, la prima avevo fatto, due anni fa avevo fatto le staffette di 10 km, ma farla tutta è piacevole. Ecco, intanto aspetta che ti chiamo ancora il numero di telefono 824 0024 per quelli che si stanno preparando per le varie maratone, perché qualcuno ha iniziato già tempo fa a prepararsi per le maratone, è il momento, però adesso arriva la stagione, si esce fuori, si comincia a correre, bisogna fare le gare, devono essere competitive, non competitive, non importa, però bisogna andare a correre e fare queste gare. Tu quanto tempo ti sei allenato per questa gara, per questa maratona? Ma guarda, io non ho fatto un lavoro specifico, io esco un giorno sì, un giorno no, un'oretta, un'oretta e mezza al giorno. Quindi, sobrio. No, non mi sono fatto un... No, ma anche perché non ho intenzione di diventare matto per queste cose. No. Quindi vado fuori, mi diverto, corro un po', quando sono stanco torno a casa. Perché faccio tabelle varie. Ma perché anche tu noti che c'è un po' ossessivo? Un po' sì. Cioè questi che corrono in continuazione, se non corrono si diventano poi nervosi, sì, esatto. Si tratta male la gente. Che tra l'altro poi vanno sempre a cercare il limite, degli ultra trail, queste cose effettivamente. Io lo faccio perché mi diverte, perché mi è piaciuto passare a Milano, la mia città, mi è piaciuto l'atmosfera, questo era il mio obiettivo, il mio scopo. Ecco, tu che l'hai fatta tutte, diciamo, non nelle posizioni di vertice della classifica, com'è che l'hanno affrontata gli automobilisti, al di là del fatto che c'era il blocco del traffico? No, però... c'era il blocco, quindi sinceramente non ci sono dei problemi. Io due anni fa, quando ho fatto la... come dicevo prima, la staffetta, ci insultavano in un modo... Ma chi? Gli automobilisti? Ma dai! Gli automobilisti, no, perché si fermavano ai semafori, ovviamente dovevano far passare, era una roba allucinante. Tant'è vero che io quando Pisapia, per fortuna, durante queste manifestazioni, questa come altre, blocca il traffico, insomma, non fa bene, fa benissimo. Certo. Al di là della manifestazione... Io penso che il blocco del traffico la domenica ogni tanto faccia bene, anche perché è questione sempre di abitudine, e vedere Milano, che già magari probabilmente non è una città straordinariamente bella, però vederla senza le macchine acquista molto. Cioè, porta a casa qualcosa di estetico, insomma. Sì, sì. Possiamo dichiarare Mario Beretta in polemica aperta contro Fabio Fazio. Così, cioè, certamente, ho letto ieri e sinceramente non ho capito questa cosa di questa polemica che lui non voleva il blocco del traffico. Se no come fanno ad andare il pubblico a vedere la trasmissione? Però a parte questo, voglio dire, a parte questo particolare, ci arriva a proposito di ossessivi, facile iniziare a correre col caldo. Io non faccio gare, ma corro tutto l'anno per tenere la forma, anche sotto zero, come i motociclisti del resto. Troppo facile. Due casi appunto di ossessività latente. Ma in effetti anch'io ho corso, perché chiaramente se sono comunque un'ora e mezza l'ho fatta anche quest'inverno, quindi anche quando nevicava. Poi dopo bisogna vedere se un'ora e mezza è considerata una corsa o invece una passeggiata, non lo so, dipende da che punto di vista uno la vede, sempre. Senti, faccio una cosa dal punto di vista fisico, cioè sì. Tu quando hai cominciato a correre oggi, ma tu curavi tutti i sintomi dopo il 10° chilometro, il ginocchietto, l'alluce, insomma queste cose? Beh, fino diciamo ai 25-30 chilometri è andata bene, dopo, come dicevo prima, dal punto di vista respiratorio e cardiaco bene, dal punto di vista delle articolazioni e muscolare veramente una difficoltà, una veramente atroce, cioè difficili, gli ultimi chilometri veramente complicati. La famosa crisi del 30° chilometro, 35° sì, ci raccontava il nostro amico e consulente tecnico Antonio Latorre, allenatore di Brugnetti, che in quei momenti cominci a essere solo, cioè fai soltanto sei tu e i tuoi dolori sostanzialmente, e sei ipersensibile ai piccoli dolori, cioè che avverti che c'è oltre a quel dolore ne arriva un altro, si accumulano uno dietro l'altro. Anche perché poi ognuno chiaramente, se all'inizio i primi chilometri magari ti affianchi a uno e chiacchieri, dopo da lì in poi non vuoi più né parlare con nessuno. Sì. Se nessuno vorresti trattarlo male magari, sì, perché dici no, lasciami stare. E a proposito, i tuoi vicini come li hai vissuti, i tuoi diciamo compagni di avventura negli ultimi 7-8 chilometri? Non lo so, io gli ultimi 7-8 chilometri guardavo per terra, certo, e mi sono doppato musicalmente. Gli ultimi 6 chilometri ho messo le cuffie. Chi c'avevi in testa? Ma tra l'altro ho beccato che ho messo random e ho trovato un nostro render del boss che mi sembrava in quel momento molto appropriata. Vabbè insomma, in qualche modo insomma, esatto, ce l'hai fatta. Insomma. Ti ringraziamo per averti disturbato, sei straiato in questo momento, cioè, sì, hai degli impacchi. Sì, vabbè, quelle robe lì che si fanno dopo che uno fa una maratona. Sì, però ti vedo sciolto nella lingua. Insomma, ma ti dico, sto bene, anche perché adesso tra un paio di giorni devo cominciare ad andare in bicicletta e dobbiamo fare la ciclovia del Po. Beh certo, non ci facciamo mancare nulla, Mario. Comunque Mario, è che ti vedo sciolto nella lingua, anche perché sei stato zitto per gli ultimi 12 chilometri. Fondamentalmente sì, anche per più. Grazie Mario Beretta. Grazie a voi, buona serata. E... ha fatto la maratona tutta lui. Sì. Tutta la maratona. Non essere così triste. 42 chilometri, 195 metri. Vabbè, ma dai. Ci hai provato, insomma. Cioè, sono cose. Ecco, tu quando hai fatto quella, quando hai fatto la maratona, sì, quando hai tentato di fare la maratona in New York, tu hai iniziato quando gli allenamenti? No, a settembre? Un mese prima avevo iniziato. Perché così hai detto, no, faccio un mese prima, così ho la scusa, poi non riesco a finirla. Infatti ho fatto 27 km e mi sono fermato. Che imbarazzo, diciamocelo chiaramente. Visto che ci siamo, possiamo dare i risultati di oggi? Ti vedo bello preparato. Diamo i risultati di oggi. Catania-Cagliari 0-0, Sampdoria-Palermo 3-1 per il Palermo a Genova, Siena-Parma 0-0, l'Udinese ha battuto il Chievo 3-1, alle 12:30 la Fiorentina e il Milan avevano pareggiato 2-2. Oh cavolo, mi sono dimenticato di chiedere questa storia qua della Fiorentina e il Milan a Beretta, Beretta, Mario Beretta. Sarebbe stato interessante avere. Per favore, vorrei iniziare a correre, mi fate sapere se si può far o bisogna limitarsi per farlo? No, secondo me dovresti fare tutto quello che ti piace in questo caso, e quindi anche far sesso, visto che la domanda è questa. Però d'altra parte, se tu ti affidi a noi, le conseguenze lui ogni tanto corre, intendo dire Luca Gattuso, ogni tanto corre in bicicletta anche, Luca Cancellara, ma corre anche a piedi, Luca Cancellara. C'ha un fisico più da atleta di noi due, questo è sicuro. Sì, no, sembra lento lui, poi corre sempre, ci sbatte come un matto, questa roba qua. Ecco, io proprio totalmente male. Se vuoi dare un consiglio tu? Sì, direi di sì. Puoi fare tutto quello che vuoi, compreso il sesso, tanto non sei sicuramente un atleta. Ma poi sono stati fatti anche dei test scientifici che hanno dimostrato che il sesso non incide sulle prestazioni. Era nel calcio, però l'hanno fatto. Lascia stare. Test scientifici. Era il dibattito: portiamo le mogli al mondiale. Non è che c'erano dei test scientifici di quelli pazzeschi. Dai e vai. Non è solo calcio. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. Diciotto zero otto 8 in questo momento, cari ascoltatori. Questa è Dai Vai, non è solo calcio, ma partiamo e ripartiamo dal calcio. 7 aprile, esatto, è la data, questa è il 2013. 7 aprile, torniamo un attimo indietro, nel 2012. Che cosa accadde in quel 7 aprile 2012? Che improvvisamente il Cagliari, che doveva giocare la partita in casa con l'Inter, decise di andare a giocare a Trieste per i problemi che si erano venuti a creare col campo Sant'Elia, il campo di casa del Cagliari. Quel 7 aprile 2012 fu la prima partita che il Cagliari non giocò a Cagliari, finì 2-2 con l'Inter, c'era il Cagliari di Ficcadenti contro l'Inter di Stramaccioni, e da lì iniziò una storia che si è protratta praticamente per 12 mesi e che è ancora in corso in questo momento, tant'è vero che la prossima partita sarà ancora Cagliari-Inter domenica prossima e il Cagliari la giocherà di nuovo a Trieste. Sono successe molte cose, ci sono stati molti eventi, è successo parecchia di quel di cose anche non piacevoli per, esatto, certi versi, diciamo, degli arresti in questo caso, e noi ne parliamo direttamente col sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi. Come va? Tutto bene? C'è il sole, bene, a Cagliari? Grazie. C'è il sole? Insomma, ogni tanto un po' coperta la giornata. No, vabbè, insomma. Allora, sindaco, era soltanto per riuscire a capire e per dare anche un filo di speranza ai tifosi del Cagliari e non, anche perché la prossima settimana ci sarà di nuovo Cagliari-Inter e verrà di nuovo giocata a Trieste. Per capire che cosa sta accadendo, ci sono speranze, succederà qualche cosa, si muoverà qualcosa. Qualcosa si è mosso purtroppo nel bene e nel male, no? Però volevo capire da lei la sua versione, che quali speranze ci sono. Ma vi dico, innanzitutto la mia opinione circa il fatto che la squadra di Cagliari e della città giochi fuori dalla città, cioè, mi pare una follia ed è stata una forzatura voler allontanare la squadra dai tifosi e dalla città. Detto questo, quali le soluzioni o quali i possibili tentativi? C'è stato un sistematico tentativo da parte mia di discutere col presidente Cellino e con la società e far capire loro che ovunque in Italia, dove gli stadi sono stati messi nella disponibilità delle società, si è andati attraverso un bando, cioè una valutazione dell'impianto, delle aree attorno e poi la possibilità, dove ovviamente le squadre sarebbero, e in questo caso il Cagliari avrebbe un iter o una corsia preferenziale, mettiamola così, potrebbe ottenere lo stadio e fare i lavori di ristrutturazione, di riammodernamento, di demolizione totale o parziale, insomma tutto ciò che può consentire di avere uno stadio nuovo per la città. Certo, l'iter non è brevissimo, non è rapidissimo, però si tratta di iniziare, almeno dare una speranza. Un conto avere lo stadio così come oggi, il Sant'Elia, che se non gioca la squadra della città, non vedo che cosa la città, io per primo, che interesse abbia a tenere uno stadio in queste condizioni. È chiaro che il Sant'Elia è lo stadio per la squadra deve ritornare a giocare al Sant'Elia. Mi dica, ma è vero che lei non si occupa di calcio, sindaco? No, nel senso che... Non è tifoso? In termini professionistici non ho mai giocato in Serie A. Come giocatore ho giocato, come dire, da ragazzino, anche con alcune vecchie glorie, devo dire, i miei allenatori hanno alcune vecchie glorie del Cagliari, e poi ho le prove, nel senso che io sono andato anche a Napoli per quel famoso spareggio che ci fu a Napoli anni fa, e ho sempre seguito il Cagliari da tifoso. Insomma, è un tifoso moderato, insomma, però in questo caso, ma purtroppo, ma nel senso che comunque è tifoso. La cosa che volevo chiedere, non gioca fantacalcio in questo caso, lei non gioca fantacalcio, no? Beh, in questo periodo... La vedo dura, in salita anche. Diciamo che mantengo il fiato per altre prove, che sono più quelle politiche, in questa fase, che quelle calcistiche, però non ho un bellissimo ricordo. Sono andato addirittura allo stadio addirittura quando il Cagliari ritornò all'Amsicola, dopo tanti anni, quando il Sant'Elia fu interessato dai lavori di ristrutturazione in vista dei mondiali 90. Ecco, ma dov'è che si blocca la trattativa con il Cagliari in questo caso? Ma si blocca un anno fa esattamente, sembra di rivivere una situazione che abbiamo già vissuto, cioè con la partita con l'Inter, quando il Cagliari decide di andare a Trieste, si blocca esattamente noi il 29, mi pare fosse un giovedì, adesso non ricordo le date, comunque insomma, il 29 di marzo del 2012 ci siamo incontrati, abbiamo fatto un comunicato congiunto con la società, col presidente in quel caso. Abbiamo insieme detto che il Cagliari avrebbe giocato al Santeria e non si sarebbe allontanato dalla città e dai tifosi. Venerdì viene inviata una richiesta da parte della società per avere in base a quello che ci eravamo detti il giorno prima, per attivare un tavolo tecnico per valutare sia le vicende relative ai debiti che la società ha nei confronti del comune, sia la possibilità di valutare il progetto che la società aveva su Santeria e quindi i termini e anche le condizioni del bando, sì. Un po' sulla falsariga, perché era quello che avevo detto alla società e al presidente tempo fa, che dopo l'intervento della Corte dei Conti su comune di Udine per quanto riguarda la vicenda dell'Udinese, era ormai chiaro che nessuno potesse dare in affidamento diretto e gratuito uno stadio, un impianto di quel tipo a una società. Si dovesse attivare una valutazione, mandarlo a bando e poi ovviamente la società avrebbe avuto... E lì che cosa accade quel giorno? Che la domenica, il venerdì, noi rispondiamo a questa mail, quindi ho persino le mail inviate formalmente, sì, al comune. Noi rispondiamo che non c'erano problemi, ovviamente si trattava di discutere non sulle sentenze passate in giudicato, dove la società è stata condannata a risarcire il comune, ma sul futuro, cioè sui debiti, sì, che ancora non erano... passati attraverso sentenza come accertamento e il resto, e poi sulla vicenda stadio, quindi la possibilità di avere, ottenere, fare un progetto su Santeria. Avremmo attivato a breve, in stretto giro, sì, un tavolo tecnico. La domenica alle 22:30 una persona mandata dalla società deposita una lettera nella quale la società dice per esigenze aziendali, scelte aziendali esattamente mi pare, la società decide di andare a Trieste. E poi il martedì, quindi siamo al 2 di aprile all'incirca, il martedì un'altra nota dicendo siamo costretti ad andare via per colpa dell'amministrazione comunale e quindi vi chiederemo i danni. Ok, questo è il passato. Un atteggiamento schizofrenico, cioè, devo dire la verità. Questo è il passato, però adesso che cosa sta accadendo? Voi avete dei contatti con la società? Non ci sono questi contatti? No, allora, niente, zero? Non ci sono, anche perché la società è molto ha una gestione molto verticistica, cioè sì, con l'amministrazione, con i precedenti sindaci ha sempre interloquito il presidente. In questo momento ci sono delle oggettive difficoltà a discutere, insomma. Detto questo, io che cosa mi sarei augurato all'epoca e che cosa mi aspetto oggi? Che si ragioni su ciò che realmente si può fare, perché stiamo parlando di un bene e di un immobile, sì, pubblico. È chiaro che un immobile che ha quale vocazione, quale cioè è la casa del Cagliari, quindi non è che si possa fare altro, no, col Santeria, è uno stadio, sì, quindi nessuno vuole stravolgere, come dire, quello che è il Santeria con un uso diverso, ma la mia opinione è che debba rimanere uno stadio ed essere utilizzato come casa del Cagliari. Riprendere questa discussione, far stabilire un prezzo, una cifra, far valutare quindi l'area, tenete conto che l'area del Santeria è un'area, sì, molto pregiata perché è uno dei rarissimi casi di stadi sul mare, sul mare della Sardegna, che non è esattamente un mare brutto. Sì, sì, certo, lo conosciamo il mare della Sardegna. Quindi insomma, immaginatevi voi una struttura che è attaccata a 50 metri di distanza a il mare, con una spiaggia che, sì, si sta formando, in una zona che era un tempo, la parte vicina, soggetta a servitù militari, quindi c'è un parco, una zona immensa, verde, inserita nel contesto urbano. Ci sono 4.500 stalli di parcheggio, ci sono sistemi di viabilità, ci sono i sottoservizi già predisposti, ci sono i canali navigabili delle saline e del parco del Molentargis, che è una delle zone umide più importanti in Europa. Sì, quello però noi lo sappiamo, cioè quel posto lì è sicuramente un posto particolare, anzi è uno dei rari stadi in cui vive in un posto particolare. Nella discussione col presidente, cioè io che cosa avevo escluso? Per una questione legata alla città, allo sviluppo della città e alle dinamiche anche negative che si sarebbero potute innescare nel tessuto del commercio cittadino. Io avevo escluso che al Sant'Elia si potesse realizzare uno stadio con una città mercato, cioè con un grandissimo centro commerciale inserito nel contesto urbano. Cioè, ho stabilito che quella era l'unica cosa che era esclusa, quindi un utilizzo che avrebbe potuto, certo, commerciale. Sì, un utilizzo commerciale, non un utilizzo commerciale tout-court, un utilizzo commerciale per una grande catena di distribuzione commerciale, no? Per non massacrare ulteriormente, mortificare il tessuto delle piccole attività, tenendo conto che poi... Ecco, sindaco, noi dobbiamo accelerare un po' perché sì, abbiamo anche il traffico. Subito. Quindi ci sono, proprio perché il Sant'Elia è inserito in quel tessuto urbano, in quel contesto ambientale che le dicevo, tantissime possibilità, dagli alberghi, ai ristoranti, ai locali notturni, all'utilizzo come spazio polivalente per altri sport e spettacoli, un luogo che possa accogliere un museo dello sport che a Cagliari non esiste un museo. E Cellino cosa ha risposto a tutto questo? Cellino non aveva risposto che non c'erano problemi, poi dopo si sono proprio interrotte le comunicazioni e lui ha dato di testa ed è andato via. Secondo me, convinto di poter mettere sotto pressione l'amministrazione per ottenere lo stadio, come dire, a titolo gratuito, anche volendo, anche se fossi il però per adesso, per capirci, intanto adesso non ci sono più trattative, tutto fermo, tocca a voi fare una proposta? Come? In questo momento non ci sono trattative, tutto fermo oppure state già pensando una proposta? Stiamo andando avanti con un bando, cioè, ho capito. Stiamo portando avanti, nel senso che ovviamente che sia la società o che sia la società con altri privati, è chiaro che solo ed esclusivamente coloro che sono in accordo con la società o la società stessa hanno titolo per ottenere lo stadio, perché è normale, è uno stadio per il calcio. Quindi il bando comunque va avanti in questo caso, sì, qua, e sì, quindi vedremo poi in seguito. Noi la ringraziamo, sindaco. Grazie a voi. Grazie per la disponibilità. Massimo Zenta, sindaco di Cagliari. Dai e vai, non è solo calcio. Watch this. Un'altra data da ricordare, importante in questo caso, c'entra lo sport, ma è collaterale, sì, no? Però in qualche modo si è identificato un po', no? Anche questo passaggio, cioè quando si ricorda lo sport, si ricorda Aquila, si ricorda il rugby, la squadra di rugby. L'intervento della squadra di rugby in quei momenti, esatto, di 4 anni fa. Era le 3:32 del 6 aprile del 2009 e il terremoto spianò un po' quello che era l'Aquila e che ha portato a casa circa 92 vittime accertate, insomma ha distrutto un po' tutto quello che c'era lì intorno. Bene, noi ne parliamo con Marco Molina dell'Aquila Rugby. Pronto, Marco? Pronto, buonasera. Una buonasera. L'Aquila Rugby è diventata poi anche una specie di simbolo all'interno dello sport per quello che è accaduto in quella notte, no? Cioè, lo ricordiamo con voi quella notte, cioè di colpo vi siete passati la comunicazione tra di voi e vi siete ritrovati, mi pare all'ospedale, mi pare di aver letto da qualche parte, no? A soccorso. Era appena rientrata dalla trasferta di Alghero, i ragazzi erano ancora in giro perché L'Aquila era una bellissima città universitaria, quindi c'erano tanti locali aperti, insomma c'era la movida aquilana che era quasi certo. come quella spagnola. E l'ispettore Cavallo, allora allenatore della squadra, ha inviato sms ai ragazzi che ci sono precipitati immediatamente lì nel reparto dell'ospedale e hanno fatto il loro dovere, insomma. Ma hai fatto squadra in quel momento lì, di nuovo, no? Sì, diciamo che il nostro campo è diventato la città in quel momento, perché tanti sono andati lì all'ospedale, tanti altri hanno dato una mano dove potevano, come d'altronde tanti aquilani. Nell'emergenza si tira sempre fuori il meglio di sé, insomma, in questi casi. Ecco, l'Aquila nell'immaginario collettivo è sempre stata collegata a questo sport che è il rugby, e questa è sicuramente l'eccellenza. Ma quanto ha inciso sul tessuto sportivo della città il terremoto? Perché comunque l'Aquila è ancora nel campionato di eccellenza, avete giocato ieri, va bene, non è andato benissimo, però quanto ha inciso il terremoto sul tessuto sportivo? Beh, guardi, l'Aquila sta ancora cercando di riprendersi da quello che è stato il post-sisma, perché la squadra ha voluto dare un forte segnale a tutta la cittadinanza che si poteva ripartire da un bruttissimo placcaggio qual era quello che avevamo subito. Quindi 8 giorni dopo già eravamo in campo a San Donà di Piave e abbiamo vinto una partita importantissima. Questo serviva per spronare tutti, per far comprendere che non era finita, ma sostanzialmente poi non si è pensato allo sport come un veicolo per far rinascere anche il tessuto sociale di una città. In questo momento ci sono tantissime cose che da fare ancora, ma io penso che lo sport sia uno di quelli, ma nel rugby come in tutti gli altri sport. In questo momento la città, la squadra non ha un campo realmente su cui allenarsi, si allena sull'unico campo restato in città che insomma ospita circa 500 persone, in questo modo davvero è difficile. E tra l'altro poi c'è bisogno di un pochino più attenzione, perché c'è un dato di fatto che tanti ragazzi stanno andando via da questa città, tante famiglie vanno fuori perché non vedono futuro per i loro figli, e questa è una cosa molto grave, perché se dobbiamo far rinascere questa città c'è bisogno dei giovani e c'è bisogno che gli aquilani restino attaccati alla propria città e vedano davvero delle prospettive di sviluppo per essa. Ieri è andata male, ma penso che abbia influito tanto sui giovani aquilani il peso di quella data, perché ieri per noi non era solo una partita, ieri era una data troppo particolare. Un minuto di silenzio, no, per ricordare 309 vittime, sì. Che è stato un minuto pesante, no, all'interno del... Interminabile, le dico, è stato un minuto interminabile, dove, guardi, c'è una delle maggiori strade al di fuori dello stadio, della città, non si avvertivano nemmeno i rumori delle macchine, è stato un momento veramente... interminabile, guardi, veramente interminabile, sembrava essersi fermato tutto. Bene, ma in questo passaggio voi come pensate di affrontare? Perché adesso, a parte la sconfitta di ieri, che ne sì, è marginale, voglio dire... Diciamola, l'Aquila ha perso contro il Rugby Reggio 14-19. Però ecco. L'Aquila Rugby può diventare comunque un punto di riferimento, no? In questo passaggio, anche a livello... L'Aquila Rugby è un punto di riferimento. Sì. L'Aquila Rugby non è più solo una squadra di rugby dal post-sisma. L'Aquila Rugby è tante famiglie, tanti ragazzi di questa città, è un qualcosa che tiene viva l'attenzione su questa città, perché giustamente sono successe tante altre cose oltre il terremoto dell'Aquila, ma e forse un po' ci si è dimenticati di quello che sta vivendo questa città. Qui c'è ancora tantissimo da fare, è stato fatto tanto, ma c'è ancora davvero tantissimo da fare. Non abbastanza, insomma. In tutti i modi. Quindi non è stato fatto abbastanza, ma c'è davvero tanto da fare ancora. E quindi voi comunque sarete presenti. Noi la ringraziamo moltissimo per la sua testimonianza. Grazie a lei, Marco Molina. Grazie a voi per aver pensato a noi. A presto, figuriamoci. Grazie. (349) 238 6666, qua direttamente da Evai, 800 24 0024, per quelli che invece vogliono telefonare, quelli più coraggiosi. Dai e vai, non è solo calcio. È già la via, amaro via, romale che io me ave. Vachta lovela pia, pur pravintra me pia, sero mave. stai dicendo che noi esportiamo soltanto commissari tecnici di calcio in giro per il mondo, anzi, quelli sono pochi in realtà. Diciamo rispetto a quello che esportiamo. Esatto. Noi abbiamo una tradizione in questa disciplina di cui andremo a parlare fra pochi istanti, una tradizione storica, giustamente i tecnici migliori sono i nostri. Certo. No, ma anche scherma, pallavolo. Già meno pallavolo, secondo me è più questa disciplina. Ogni volta che citano un commissario tecnico di una nazionale italiano, no, è vero pallavolo, che esportiamo i commissari tecnici della nazionale, però ad esempio alle Olimpiadi la pallavolo maschile non ha avuto sti grandi risultati, forse per questo li portiamo fuori, vediamo fuori all'estero. No, non è così, no. Allora, invece adesso parliamo di un commissario tecnico. Esatto, il commissario tecnico di una nazionale, la disciplina è lo skit, quindi il tiro a volo skit, sì. Lui si chiama Pietro Genga, è stato fino a qualche giorno fa, fino a qualche settimana fa, il commissario tecnico della nazionale danese, e alle Olimpiadi di Londra l'anno scorso ha vinto la medaglia d'argento con Anders Golding, e adesso ha deciso di cambiare, quindi dopo la Danimarca è andato in un altro paese. Dove? A Cipro. Cipro. Pietro Genga, pronto? Sì, buonasera a tutti. Una buonasera, va a Cipro perché c'è il sole lì. Sì, è un po' più caldo la Danimarca. Oltre alla Danimarca, lì dopo un po' si faceva molto freddo. Anche il tiro al volo, tra l'altro, non si può fare in palestra, bisogna per forza andare fuori, giusto? Assolutamente sì, si fa all'aperto. Ecco. Le prime volte siamo arrivati in Danimarca, non abbiamo sparato per i primi giorni perché faceva veramente molto, molto freddo. Poi diventa difficile anche beccarlo. Senta, ma queste notizie che arrivano da Cipro in questi giorni non l'hanno un po' preoccupata nella sua scelta tecnica sulla disciplina? Diciamo che sono stato lì le ultime due settimane quando è successo tutti i vari guai con le banche. E loro la vivono, diciamo, molto tranquillamente, ecco, perché comunque c'hanno i genitori che non stanno messi male. Questo è quello che si percepisce vivendo la realtà cipriota. Sembra che sì, c'è stato molto non una perfetta per quanto riguarda le persone che lavorano soprattutto nella banca che è stata chiusa, quelli hanno subito la maggiore perdita, però a vedere i locali, i ragazzi, le spiagge che si cominciano a popolare, non sembra un paese così in crisi, ecco. Ma cos'è che l'ha fatto scegliere di andare lì? Cioè, conosce gli atleti ovviamente in qualche modo? Ovviamente sì, il nostro piccolo sport, siamo vi conoscete tutti vi conoscete. Prima di me c'è stato Benelli, che è il campione olimpico della disciplina di skit nel 2004 ad Atene. Sì. Che adesso è diventato commissario tecnico della nazionale italiana. E quindi lei va lì perché spera che poi dopo Rio di diventare lei commissario tecnico della nazionale italiana? No, io sono andato lì perché ambisco a prendere qualche bella medaglia a Rio, indubbiamente. Certo. Teniamo presente che Cipro è come se fosse il Real Madrid del calcio, quindi è uno sport nazionale, ci sono 4-5 persone che sparano, sia uomini che donne, che sparano a livello internazionale e sono pagati, ecco, solo per fare quello, per intenderci. Professionisti. In Danimarca, quindi, invece, i ragazzi lavoravano. Quindi doppio lavoro, insomma, in questo caso. Cioè, quindi era ancora allenamento. No, lavoravano, lavoravano come carpentiere, impiegati presso aziende caratteristiche stradali, e nel pomeriggio si allenavano. E quindi stiamo parlando di atleti professionisti a Cipro? Assolutamente sì. La sua speranza è quella di ottenere che cosa a Rio? Cioè di arrivare alla medaglia d'oro? Perché dopo aver preso un argento l'obiettivo è quello, no? Beh, diciamo che ho cambiato anche per avere nuovi stimoli. In Danimarca allenavo 3-4 persone perché erano le persone che sparavano erano quelle. A Cipro alleno 15 persone fra junior, donne e uomini. Tra questi c'è un tiratore in particolare che negli ultimi 4 anni ha vinto 16 medaglie nelle varie coppe del mondo, mondiali ed europee, ed ha fallito purtroppo proprio le Olimpiadi. Ma stiamo parlando del numero 1 e numero 2 al mondo, e si chiama Giorgio Achilleos. Quindi va già anche un po' facile andare lì, cioè la squadra più forte, molto bravi, tutta gente, insomma, anche fare il CT di una squadra del genere, voglio dire, a parte la gratificazione, però va anche un po' sul sicuro, punterà direttamente alle medaglie, no, a Rio, tranquillo. Si sente un po' a parte lui, chiaramente il mio compito è quello di portare anche altre le possibili due donne che si possono qualificare più un altro uomo per cercare di insidiare il posto ad Achilleus. Ecco, questo è l'obiettivo. Senta Genga, dopo aver vinto l'argento, Golding, l'atleta danese, nei primi ringraziamenti ha ringraziato e ha ricordato gli operai dell'Ilva di Taranto, perché c'è un poligono vicino all'Ilva. Ha intenzione di portare anche gli atleti di Cipro a tirare al poligono dell'Ilva di Taranto? Beh, sicuramente sì, perché loro sono anche nati qui, l'atleta di Cipro, lo stesso Giorgio Achilleus, quando ha vinto il mondiale come junior, era allenato da quello che è stato il mio maestro, che è Tonino Blasi, e quindi hanno già calcato le pedane del campo di Taranto. Ah. I danesi sono venuti qui perché nei mesi invernali è troppo freddo allenarsi in Danimarca, quindi abbiamo preferito allenarci qui a Taranto, che è il mio campo, dove io sono nato, dove ho avuto la possibilità di allenarmi, sia grazie all'Ilva, sia grazie poi quando sono entrato nel corpo forestale dello Stato. Ho visto che prima c'era il campione olimpico Volmente, un collega, sono stato 12 anni nel centro sportivo della forestale, adesso devo comunque ringraziare loro per questa opportunità che mi danno. Ecco. Però l'Ilva di Taranto rappresenta un grosso bacino anche per gli stessi tiratori italiani. Ecco. Va bene, noi la ringraziamo moltissimo per la sua disponibilità, noi non possiamo che augurargli tutto il bene possibile, sì, anche lei a Cipro e soprattutto per Rio. Speriamo di risentirci per qualche altra medaglia. Per Rio di sicuro ci sentiremo in qualche modo, la ringraziamo, tante belle cose, a risentirci, grazie. Salve, arrivederci, salve. Pietro Genga, che è il commissario tecnico di Cipro, della nazionale di Cipro, Cipro, sì. Che diciamo, esattamente il contrario, mi dispiace che sia lì, no, questo ragazzo a Cipro. E vabbè, intanto quello di Cipro è venuto in Italia. E poi fanno il giro. Fanno un po' il giro, capito? Il concetto di base è che tutti vanno poi all'Ilva a tirare, in questo caso, a fare l'allenamento. Da un campione all'altro oggi, hai capito? C'è allora, da dire che diciamo abbiamo iniziato con un campione olimpico, sì, poi abbiamo medaglia d'argento, sì, adesso campione italiano. Segnatevi questo nome perché ve lo ricorderete, lo sentirete spesso nominare, Roberto Pedroni, neo campione italiano di flipper, Che va bene, grazie. Roby, se ridi tu però non vale, cioè, capito? Sì, cioè, sono un po' emozionato ancora. Sì, a parte gli sbandamenti sull'autostrada, questa gente che è caduta giù dalle sedie a sentire questa notizia. Cioè, voglio dire, no? Cioè, Roberto Pedroni, neo campione italiano di flipper. La domanda è: ma quanto ti alleni tu ogni giorno? Quante ore ti alleni? No, ogni giorno no, una volta alla settimana. Una volta alla settimana? Siamo in club, ci troviamo tra amici. Una volta alla settimana, non è una grande fatica? Cioè, dire, no? Sì, un paio d'ore alla settimana, però da quando ho 14 anni che gioco la fine, quindi senti Roberto, una cosa, ma sui pollici, sui polpastrelli dei pollici, tu c'hai i calli? Non proprio, però diciamo che sono un po' allenate anche quelle, hanno un po' i segni, diciamo, sì, vabbè, dello sport. Cioè, vabbè, insomma, diciamo, neocampione italiano di flipper, ti senti già diverso, ormai la notorietà ti sta dando la testa, si capisce un po' tutti questi meccanismi che in qualche modo ti hanno portato. Come hai fatto? Com'è stata questa gara? Difficile? Sudata abbastanza. Ok, ciao, guarda, insomma, Roberto, lascia stare adesso, non dire stupidaggine, sudata, dai. Adesso. Molto più di quanto mi aspettavo, neanche se pensavo di arrivare. Ah, perché tu sei arrivato lì che non speravi di vincere. Sì. Assolutamente no, non me l'aspettavo. Ovviamente lo speri, però Guarda, Pedroni, noi possiamo fare di tutto, cioè ti intervistiamo anche perché sei neo campione italiano di flipper, lo ripetiamo. Sì, neo campione italiano di flipper. Però ti diciamo decisamente, dai vai, di Radio 24 non appoggerà la candidatura del flipper alle Olimpiadi di Rio. Te lo diciamo proprio, per noi questo è assolutamente uno sport, non è uno sport, diciamolo no, chiaramente. Beh, è un passatempo in questo passaggio, simpatico, perché io te la devo dire, tanti anni che non gioco più a flipper, devo dire. Ma dove li trovi tu i flipper? In giro non si trovano molto, appunto noi abbiamo questo club dove ci troviamo, dove abbiamo portato i nostri proprio, ci troviamo e giochiamo. Ah, li avete presi voi? Tu hai comprato un flipper? Esatto. Quanto l'hai pagato, scusa? 500 euro. Sempre. Ah, una roba, te lo tiro indietro praticamente, insomma. Sì, più o meno, diciamo. Costa di più il calcetto, esatto. Il calcio valilla costa di più. Adesso sono tutti elettronici, non sono più meccanici come una volta. Sì, sono tutti... digitali adesso. Esatto, sì. Vedi, tu fai le battute, ma sono digitali veramente. Sono digitali, no? Adesso, certo. Senti, Pedroni, ci vuole più preparazione fisica o mentale per diventare... Ma smettila. No, mentale, assolutamente. Certo. Perché tu, mentre stai giocando, devi pensare anche ad altro, insomma. O no. Ti concentri? Bisogna concentrarsi, appunto. Non bisogna agitarsi, poi tutte quelle cose sono abbastanza... Ecco, Pedroni, la domanda, so che è un po'... però dobbiamo farla noi queste domande, tu devi permetterci, perché questo... Dobbiamo parlare anche del doping nel flipper, insomma. Parliamone, allora. Come flagella un po' questo sport, doping? Il massimo che qua bevevano erano delle birre. Le birre, le birre. Quelli sono ammesse. Quindi è la birra che vi sta rovinando, diciamolo. Esatto, sì, con il tempo. Pedroni, adesso che sei campione italiano... che tourne fai? No, aspetta. Cioè, tu... il tilt lo vivi come un fallimento della tua vita? Il tilt? Sì. Quando il flipper va in tilt, lo vivi come un fallimento della tua vita? No, non sono ancora a quel punto lì. Ah, no? No. Non no. Sono ancora arrivato a quel punto terminale. No. Adesso facciamo una cosa. Per chiudere l'intervista, che secondo me sta prendendo una piega piuttosto imbarazzante, volevo sapere da te, cosa fai nella vita? Sono operaio. Quindi tu sei una persona seria, lavori seriamente, poi dopo passi il tempo a giocare. E come festeggerai? Cioè, di dove sei, tanto per iniziare? Che città? Sono vicino a Monza, provincia di Monza. Ah, ecco perché ci stanno dicendo, appunto, ci sono caroselli di auto a Monza in questo momento per la tua vittoria. Grazie Roberto, è stato un piacere sentirti, è stato bello. Aspetta che ci fanno una domanda, cos'è? Mi chiedevo... ecco appunto esatto. Ringrazio ovviamente Roberto. Questo passaggio mi chiedevo, ma quanto incide il fattore C nel gioco del flipper? È un SMS, non lo chiediamo noi, ci vuole sempre in ogni caso. Vabbè, questo anche in assoluto campione del mondo, come saggio, guarda, è già diventato campione italiano da poco, è già così saggio, guarda. Grazie a risentirti. Grazie Traffico, a voi. Grazie. No, I love you know I can't stand. Struggente come sempre. Un po' legata al flipper. Aspetta, che questa voce viene bene. Aspetta. I can't stand it 'cause you put me down. Dai e vai. Yeah. Mm. Spell on you. Because you're mine. Non è solo calcio. Vabbè. Per cambiare un po' anche il tono di voce, perché sennò sembra... Non è solo calcio, ma andiamo a parlare di calcio perché c'è gente che in questo momento è in movimento. Forse sono già arrivati. No, non saranno ancora arrivati. E ne parliamo col Genoa Club Sestri Ponente, con Stefano Arisetti, ormai un amico, sì. Un affezionato. Ormai sono un affezionato cliente della domenica. E ormai sei dei nostri, cavolo, ormai Genoa. A che ora sei partito, Stefano? Siamo partiti alle 7, siamo già arrivati da un'ora. Vabbè, questa trasferta semplice, tranquilla. E stiamo parlando, da dove siete partiti? Siamo partiti da Genova alle 7 col pulmino. Ah, pulmino? E siete già arrivati a Napoli? Siamo già arrivati a Napoli, stiamo già mangiando. Siamo in mezzo ai napoletani e tutto quanto. Questo, come è, sempre. Questo è strano che state già mangiando, cioè, non l'avremmo mai sospettato. Insomma. No, infatti. Stefano, questa è la trasferta più bella dell'anno, diciamo la verità. Questa è la trasferta più bella dell'anno, assolutamente. E perché? Vediamo per noi profani, perché è quella più bella? La trasferta più bella perché eravamo mezz'ora fa sotto la curva loro, siamo stati lì con loro, siamo venuti di qua, siamo a mangiare in mezzo a loro come quando loro vengono a ammarrarsi da noi. Quindi gemellaggio forte, no? È più che un gemellaggio. Cioè? Cos'è? Eh, quasi calcisticamente una fratellanza con Ah, proprio siete amici amici, insomma. Cioè, sì, Napoli, sì. Sì, anche col Torino fino a qualche anno fa era un po' così, però poi... Col Torino prima era così, poi è successo qualcosa che non è più tanto così. Però... Esatto. Vabbè, ma sono cose... Però con Napoli resiste, diciamo, il problema con è che Napoli, oggi... Napoli sì, resiste. E il problema è che oggi avete degli interessi un po' opposti, mi sembra. Abbiamo interessi opposti, però un punto per uno, loro rimangono secondi e noi rimaniamo con tre dietro. Senti, quindi... ma avete già la testa la prossima domenica? Abbiamo... No. Prossima domenica... Aspetta, prima c'è stasera, poi c'è domenica prossima. Ah, cominciate una cosa per volta, non ce l'ha fatta a seguirle tutte. Intanto loro oggi hanno... Ho visto che hanno fatto una bella partita in casa col Palermo, quindi... Sì, esatto. Sì. Senti, Amsic e Cavani lo sanno che un punto a testa va bene per tutti? Li hanno avvisati oppure no? No, perché... adesso allora... Ma io speravo che giusto il... Cavani avesse perso l'aereo, però non l'ha perso. Quindi... No, no, ho visto di no. Quindi... Vabbè, sono cose. Allora, a che ora, scusate, per capire bene il percorso adesso a questo punto, voi uscirete lì a che ora? Usciremo dallo stadio mezz'ora dopo la partita, alle 11. Partiremo alle 11 e mezza, arriviamo sì. a Genova alle 8 e mezza, 9. Di mattina? Domattina? Certo, domani mattina. Ma domattina poi lavorare. Subito a lavorare? Qui in ufficio. Subito in ufficio, vai. Arrivo a casa, mi faccio una doccia e poi mi apro l'ufficio. Senti, chi è che guida il pulmino? Abbiamo due autisti. Ah, ok, quindi non avete problemi. Ma quanti siete? Siamo una ventina. Ah, sul pulmino una ventina. Ma lì sarete voi 20 e qualcun altro? Ci sono tanti che sono stati più furbi di noi, che sono venuti in aereo il giorno prima, qualcuno sì. in macchina, sì, noi siamo... un po' deficienti, che siamo partiti stamattina alle 7. Voi volete soffrire la trasferta? Sì, sì, noi la trasferta è solo sul pullman, sì, ma sì. in aereo in trasferta. No, è sofferenza un po' la trasferta, insomma. Sì, sì, costo sì. generale di questa trasferta? Ma 60-70 euro più il biglietto, più ho o capito, meno. Vabbè. Senti, c'è un coro che questa sera canterete, oltre a quello là che sappiamo benissimo, tifosi genuani, tifosi napoletani... particolare che unisce quale coro? No, non lo so, chiedo a voi se c'è qualche coro particolare. No, vabbè, ma no, ma noi, sono amici cioè, ma sì, i soliti Napoli-Napoli, Genoa, cori contro il Doria, ecco, cori contro il Doria, perfetto. Sì. Cose, senti, vabbè, Stefano, ma ti sei mangiato la pizza con Friarielli? Friarielli, no? Sì. Non ho capito. Ti sei mangiato la pizza con i Friarielli? No, più che altro mi sono bevuto una birretta, avevo sete. Ah, vabbè. Stefano, è stato bello, ci risentiamo magari anche stanotte, o se no ci risentiamo forse la prossima Dai, domenica. Il mio numero c'è. No, la prossima no, guarda, no. quando c'è il derby, no, ti prego, veramente. No, derby, scusa. Veramente, no, ecco, no il derby no. Contro la Juve, derby e Juve veramente le patisco troppo, ci le senti... altre va bene, guarda, ma derby e Juve no. Ma è proprio lì che ti vogliamo sentire, sei troppo so, rilassato in giro, hai capito? No, ma sono rilassato perché comunque so che comunque parto già rassegnato, però va bene, se perdiamo vanno tre punti a una buona causa, va bene. Grazie, ciao Stefano, ciao. Mica come te, domattina poi dopo va a lavorare cioè, in ufficio, esatto. Cioè, mica come te che ti diverti, insomma. Cioè, in questo momento il Genoa ha 27 punti come Siena e Palermo, che sono tre delle ultime quattro squadre, all'ultimo posto c'è il Pescara 21 che ormai è retrocesso, se la giocano queste tre squadre perché l'Atalanta è più su, 7 punti più sopra, 34 punti. Pietro Lacorte e Roberto Scaltriti ci hanno seguito al mixer anche oggi attentamente, tra attentamente, le altre cose questo, e l'assistente al programma ci ha permesso di andare di mandare in onda voci importanti, e Giorgio De Luca in redazione, Luca Cancellara che ci ha guidato attentamente anche lui, e ancora una volta in onda Luca Gattuso e Sergio Ferrentino qui in studio, che tra l'altro stasera torneranno, sì, non 22... è che se ne stanno andando via serenamente dalle 22 no, alle 23 così la butti via, no, così no, cioè, no, io volevo fare tutto una cosa, torneremo anche stasera dove poi ci saranno anche altri, ehi là, ci sono già gli sms, nel momento in cui stiamo andando a chiudere ovviamente arrivano gli sms, le abbiamo chieste al 349-238-6666 tutto il giorno e ovviamente arrivano proprio, ehi ragazzi, avete per caso già parlato di hockey pista? No, Mauro, no. Mi dispiace, non ne abbiamo parlato, però ma potrebbe succedere. Guarda, volevo dirti questa cosa, caro Mauro, Mauro, ne parleremo questa sera. Nel frattempo io volevo sentire, perché tra l'altro non so se hai notato, adesso su Sky, no, non parlano più della Juventus. Beh certo, ma il campionato è finito. Sì, ho capito, ma cioè, ragazzi, stiamo parlando di cose serie, cioè, stiamo parlando di Juventus, stiamo parlando di cose importanti. Beh, continuano a far vedere i gol del Palermo sulla Sampdoria, ci sarà un motivo per cui fanno queste cose. Sì, perché stanno parlando di San Nino. Sentiamo i giocatori che sorprendentemente per quasi tutta la stagione si erano espressi sotto traccia, e parlo di giocatori che in quel contesto sono dei top player come Ilicic. Venendo il rendimento insomma del Palermo in queste ultime settimane, insomma, continua. Dobbiamo dire qualcosa rispetto a quello che è accaduto oggi. L'unica cosa da vedere è il gol di Di Natale, tra l'altro tanta gioia ha dato tutti quanti i fantacalcisti. Bene, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento questa sera sempre con Dai e Vai, non è solo calcio.